Buonasera a tutte e a tutti e benvenuti al sesto ciclo della letteratura tradotta nella piccola e media editoria organizzato insieme alla Sapienza di Roma. Allora, questa sera si parla di traduzione d'autore attraverso le Alpi sul ruolo della traduzione nelle scritture non assertive. Allora, tra noi è nato un grande dibattito, no? Ci chiedevamo cosa sono le scritture non assertive e bene, spero che questa sera, no, usciremo tutti con le idee più chiare. E do la parola a Martini. Ho introdotto il ciclo, adesso okay, basta. Benissimo. Diamo la parola a voi direttamente. Ai nostri ospiti. Benissimo, iniziamo queste due ore di incontro su traduzione e scritture non assertive. Lo facciamo insomma con Marco Giovenale, che è scrittore di ricerca e traduttore dall'inglese, Massimiliano Manganelli, che è critico letterario e traduttore dall'inglese, e Michele Zaffarano, che è scrittore di ricerca e traduttore dal francese, che sarà poi l'argomento, diciamo, di questo nostro incontro. Magari vi presento in modo più approfondito, perché almeno tiriamo in ballo alcuni libri di cui poi magari parleremo. Marco Giovenale, come dicevo, è scrittore di ricerca, editor e traduttore, insegna storia delle scritture di secondo novecento e contemporanea al centro scritture e in altre sedi, è tra i fondatori e redattori di GAM.org, che è un sito di materiali sperimentali di cui poi anche parleremo, e con Antonio Sixti e Michele Zaffarano pure il blog Esiste la ricerca. Tra le raccolte in versi ricordiamo La casa esposta, Le lettere 2007, Criterio dei vetri, Oedipus 2007, Shelter, Donzelli 2010, Maniera Nera, Aragno 2015, Strettoia, Arcipelago Italia 2017, Delle osservazioni, Blanc 2021, Cose chiuse fuori, Aragno 2023. In prosa, appunto, ricordiamo quasi tutti, Polimata 2010, Il paziente crede di essere, Gorilla Sapiens 2016, La gente non sa cosa si perde, Tic 2021, Il codone, Zacinto 2021, Statueline, Piedi Mosca 2022, Oggettistica TIC 2024. Insieme agli altri redattori di GAM è nell'antologia Prosa in Prosa, vedete, del 2009, di cui poi appunto parleremo. È anche scrittore asemico, per cui ricordiamo l'enciclopedia asemica Icona Libera 2019 e un saggio al riguardo Asemix Senso Senza Significato Icona Libera 2023. Il suo sito è slowforward.net. E poi passo a Michele Zaffarano, che invece è scrittore di ricerca, sempre traduttore dal francese, tra gli autori tradotti Baudrillard, Flaubert, Glaize, Conge, Cantin, Tarcos, che saranno poi argomento del nostro incontro, e altri. È fondatore del sito GAM.org, di cui ho appena accennato, e direttore delle collane Chabooks, Ultra Chabooks e Gli alberi di Tic e Manufatti poetici di Zacinto. È inoltre redattore della rivista francese Nioc. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Wunderkammer, in prosa, 5 testi tra cui Alberi più 1, Ben Wesirius 2013, Paragrafi sull'armonia di Icona Libera 2014, Todestrib, Arcipelago 2015, La vita, la teoria, le buche, Oedipus 2015, Power Pose, Il Berry 2017, The Click 2024, è stato ripubblicato insomma, di recente, Sommario dei luoghi comuni, Aragno 2019, Istruzioni politico-morali, Diaforia 2021, Poesie per giovani adulti, Scalpelli 2022, Tre movimenti non stati, TIC 2024. Massimiliano Manganelli, infine insegnante e traduttore, dottore di ricerca in italianistica, ha pubblicato tra gli altri studi su Ungaretti, Sanguinetti, Malerba, Volponi, Lucini, Porta, Frasca, la poesia oggettivista e le scritture di ricerca, appunto. I suoi saggi sono apparsi in vari volumi e riviste, tra i quali Il Verde, Avanguardia, L'Ulisse, Semicerchio, Gnocchi e altri. Ha collaborato con Alfabeta 2, attualmente scrive per Doppio Zero e Immaginazione, è stato inoltre uno degli 8 curatori dell'antologia di poesia Parola Plurale, 64 poeti italiani da due secoli, Sossella 2005. Ora, diciamo, entrando un po' nel vivo del discorso, giustamente la traduzione, diciamo, è un po' il fil rouge che lega tutti questi incontri della rassegna. Noi dobbiamo rivendicare un po' lo specifico, diciamo, anche dell'accompagnamento del nostro incontro, che è ovviamente tutto piegato sull'oggetto della trattazione, dunque sulle scritture non assertive e o scritture di ricerca. Occorre ovviamente capire che cosa intendiamo quando parliamo di scritture non assertive e o scritture di ricerca. Tanto dico subito che questa oscillazione terminologica ovviamente ha a che fare col fatto che si tratta di categorie che cercano di sistematizzare tassonomicamente un fenomeno che è vivo e che dunque ha un po', diciamo, non è semplicemente riconducibile appunto a delle categorie, e dunque sono delle categorie piuttosto mobili che vanno prese, ecco, con spirito critico. E certamente, come ha notato Gianluca Picconi in un saggio che secondo me è fondamentale appunto per comprendere che cosa sono le scritture di ricerca o le scritture non assertive, il saggio si intitola La cornice del testo pragmatica della non assertività, uscito da TIC Edizioni nel 2020. Questa oscillazione terminologica, diciamo, è come fosse appunto parasinonimica, nel senso che referenzializza lo stesso fenomeno letterario, ma come se lo inquadrasse da due prospettive differenti. Una più, potrei dire, pragmatica, che è quella della ricerca, e una invece più formale, cioè legata appunto a alcuni aspetti formali, stilistici, che è quella della non assertività. Certo che ovviamente risulta una costante, che è quella, diciamo, della scrittura. Cioè non parliamo di scrittura poetica, non parliamo di scrittura prosastica, o non parliamo necessariamente, ecco, di scrittura poetica, di scrittura prosastica, di scrittura romanzesca, di scrittura teatrale, eccetera. Parliamo di scrittura, e questo mi pare, ecco, che riporti appunto l'atto della scrittura alla sua origine materiale, no? E potremmo anche appunto riflettere sul confine, no, tra il materialismo inteso in questo senso e un materialismo invece più politico, no, che aggiunge al termine l'aggettivo storico, ma questo forse non è il momento e il luogo e l'occasione adatta per fare questo. Certamente però l'insistenza sulla scrittura, su un superamento dei, diciamo, dei generi letterari effettivamente, è qualcosa che oggi è molto stringente, nel senso che viviamo in un mondo in cui la testualità veramente è estremamente ingerente appunto nelle vite delle persone in generale nel mondo, per cui forse non ha neanche più senso distinguere, no, cosa è testo e cosa è mondo, figurarsi, no, distinguere un testo poetico da un testo prosastico, eccetera, eccetera. Forse bisognerebbe appunto parlare una volta per tutti di testi e basta. Questo per quanto riguarda quindi un primo, diciamo, orizzonte di allargamento del fenomeno verso quindi il superamento dei generi letterari. Un'altra questione che implica la riflessione appunto sulla scrittura è un allargamento in senso, per così dire, deindividualizzante o collettivizzante. E per spiegare questo faccio riferimento a un celebre saggio di Roland Barthes, che è Il grado zero della scrittura, in cui Barthes distingue lo stile, che è qualcosa che appartiene all'individuo, appunto, e che ha a che fare quindi con l'individualismo, e appartiene anche per certi versi a un determinato genere letterario, per cui noi diciamo lo stile poetico o lo stile poetico del poeta dal dettaglio. La scrittura invece è qualcosa che è un atto collettivo, dice Barthes, appunto, è una funzione, ecco, che è connotata appunto socialmente e storicamente. Per quanto riguarda gli altri due, insomma, marcatori, diciamo, quindi la ricerca e la non assertività, il discorso è un po' più complesso, nel senso che sono due marcatori che portano appunto la scrittura verso una determinata tendenza. E la questione della ricerca, il termine ricerca, diciamo, abita le stanze della nostra tradizione letteraria, quindi passato il termine della nostra tradizione letteraria d'avanguardia, almeno appunto dagli anni 60, con un significato totalmente differente, penso ad esempio al teatro di ricerca, appunto, eccetera, come sinonimo fondamentalmente d'avanguardia o di sperimentalismo. E poi inizia anche a circolare nel dibattito che si è sviluppato intorno agli anni 80-90, nella zona del gruppo 93 dintorni, come forse escamotage per superare la dicotomia avanguardia-tradizione, cioè nel senso che non volendo più, cioè non potendo più parlare d'avanguardia in senso stretto, nel momento in cui in Italia circolavano appunto le tesi di Peter Burger, secondo cui l'avanguardia nella postmodernità non era più possibile, allora forse per non cadere, diciamo, nel ludismo dei poeti innamorati bisognava tirare in ballo una nuova categoria, che era quella appunto della ricerca. Però a quell'altezza il termine ricerca serve più come, come dire, per separare, diciamo, una tendenza letteraria rispetto a un'altra. Da quando invece appunto c'è stata questa importazione di questo tipo di scritture dalla Francia, che come ho detto è una cosa importante, che per cui noi oggi siamo qui a parlare di traduzione, che il fenomeno di cui andiamo parlando è un fenomeno di derivazione francese di un'area che potrei definire, poi insomma correggetemi se è il caso, insomma di un'area post-pongiana che si è sviluppata appunto intorno agli anni 90, intorno soprattutto alla rivista New York a cui pure prima ho accennato, quindi che conta come immediati predecessori appunto Francis Ponge, Danny Roche e poi diciamo gli esponenti più spicco, di cui poi magari parleremo, come Jean-Marie Lez, Christophe Tarkos, appunto Anna di Cantano, che saranno poi gli autori che poi approfondiremo con Marco, Michele e Massimiliano. Dicevo quindi, dagli anni zero sostanzialmente in Italia questo termine arriva a organizzare effettivamente un campo letterario ben definito con una determinata tendenza. E questa tendenza letteraria ha a che fare con il termine ricerca, che si tratta di testi che non si pongono come degli oggetti trovati, come dei contenitori di verità, come noi siamo soliti appunto pensare riguardo ai testi lirici, cioè i testi lirici sono dei testi che contengono in qualche modo una qualche verità e che il lettore è chiamato a decrittare mediante gli strumenti, insomma, sono gli strumenti dell'ermeneutica, eccetera, e quindi diciamo si pongono sostanzialmente su questo livello. Le scritture di ricerca, almeno a mio avviso, sono più proiettate, come giustamente dice Picconi, verso una dimensione pragmatica, cioè più che significare funzionano, cioè hanno una funzione appunto ben precisa, cioè nel mondo, hanno, come dire, sono proiettate appunto su una dimensione pragmatica. Questo fa sì che il lettore che si muove davanti a questi testi non va a indagare il significato del testo cercando di decrittarlo sul piano del significato, ma in qualche modo cerca di estrapolarne appunto le intenzioni. La questione della non assertività è una questione che ha a che fare, credo, appunto, con l'annosa questione dell'autorialità e dei legami appunto tra l'autorialità e l'autoritarismo, fondamentalmente, che nella nostra, di nuovo, tradizione d'avanguardia è stata, sono state proposte alcune soluzioni, tra cui quella di Alfredo Giuliani, no? Che è quella della riduzione dell'io, cioè i testi sostanzialmente non dovevano contenere appunto l'io e quindi non dovevano in qualche modo contenere così le velleità dell'autore direttamente. L'autore doveva operare appunto sul linguaggio, destrutturandolo e ripropolendo appunto quello che lui chiamava la visione schizomorfa della realtà tardocapitalista. Qui in realtà si tratta appunto di un'altra questione, nel senso che il problema dell'autorialità viene affrontato su un altro piano, che è quello che Gremas chiama appunto il débrayage, cioè sostanzialmente la separazione tra le intenzioni dell'autore e le intenzioni dell'opera. Cioè in questi testi compare l'io effettivamente, ma chi dice io all'interno del testo non è necessariamente l'autore. E quindi questi testi si pongono come fossero, come dice appunto Picconi, dei pezzi di mondo, no, estrapolati dal mondo e messi sostanzialmente sulla pagina. E sono come contornati, diciamo, da un virgolettato, no? Che ovviamente non c'è un virgolettato effettivamente, ma a livello pragmatico appunto sì. Quindi devono essere appunto percepiti in questo senso. Allora forse ha più senso parlare, come è stato già fatto, di dispositivi testuali. E il termine dispositivo ovviamente mette in campo più questioni, forse le assume tutte queste questioni che ho tirato in campo. In primo luogo, ovviamente, il dispositivo è qualcosa che ci permette di interagire, no? Anche nella quotidianità, insomma, più immediata. E in secondo luogo, il dispositivo deriva appunto dalla compenetrazione di più linguaggi, ed è quello che fanno appunto questi testi. Cioè sono testi in cui non è difficile trovare, non so, link o QR code o video, immagini, eccetera. E un'ultima questione, e questo mi ricollego a quello che dicevo prima sulla grande consapevolezza storica appunto che hanno questi testi e questo tipo di scritture, e cioè il fatto che il dispositivo chiama in causa appunto anche la spazialità, effettivamente, perché deriva appunto da disporre, e dunque è importantissimo, poi lo vedremo insomma con i testi che leggeremo, anche la disposizione tipografica sulla pagina appunto del testo. E questo ha una coerenza anche con i tempi che viviamo, stando appunto a quanto teorizzava Lyotard appunto o Jameson sulla postmodernità come tempo appunto del ritorno dello spazio. E niente, questa è una brevissima introduzione, ma lascerei appunto a questo punto la parola a Massimiliano Manganelli, che diciamo, magari ci spiega insomma quali sono i procedimenti, ecco, un termine che ci piace molto, i procedimenti. Allora io sì, provo un po' a complicare e poi cercare di semplificare la questione, complicare aggiungendo almeno un paio di cose. C'è un altro termine che è ancora più forse onnicomprensivo, che è quello di postpoesia. Lui ha detto un clima post-spongiano, eccetera. Ora nell'area della postpoesia possiamo far rientrare molti fenomeni effettivamente testuali che in qualche modo rappresentano sia nel termine stesso, post apposto al termine poesia, che poi nelle varie incarnazioni un superamento da un lato della poesia in termini strettamente lirici, che è quello che diceva appunto Samuele prima, cioè una posizione autoriale forte o se non forte quantomeno estremamente riconoscibile, e poi veniamo meglio su questo, e dall'altro invece i fenomeni poetici strettamente intesi come verso, rima, eccetera. Quindi e vanno a confluire in un'area appunto, che lui giustamente definiva quella delle scritture, e questo plurale è estremamente importante, perché vedrete che già quello che ascolterete e le cose di cui parleremo sono estremamente diversificate. Non si può parlare di una scrittura di ricerca, ma di numerose direzioni. Quindi questa idea è il superamento, appunto, l'elemento tradizionale della poesia, eccetera, e quindi comincia a diventare difficile riconoscere cose che vengono proposte spesso come poesia, e scusate il bisticcio, come poesia. Cioè molto spesso capita che a una lettura, a una sia diretta che orale, come faranno loro, oppure una lettura di un testo, qualche lettore si dica, ma questa è poesia? Dove stanno, no, i punti di riferimento, i marcatori che io riconosco come poesia? L'accapo, non anche verso, l'accapo pure semplice, la rima, gli elementi sonori, eccetera, eccetera. Tutto questo può anche capitare che ci sia, non è quella la cosa cercata, assolutamente. Anzi, si va nella direzione di un superamento, per cui vengono proposti elementi, testi come poesia, che in realtà sono impaginati come noi intendiamo la prosa, oppure impaginati in maniera completamente diversa, con elementi in più. Per esempio, negli ultimi anni, faccio una piccola notazione a margine, si è diffuso moltissimo l'iconotesto, cioè l'incrocio tra testi e immagini, soprattutto fotografie, e non solo nell'area della scrittura di ricerca, però forse nell'area della scrittura di ricerca si sono viste le cose più interessanti, secondo me. In altri casi c'è un po', come dire, un accodamento, chiamiamolo così. E, dicevo, la cosa che l'altro elemento che potrebbe complicare un po' il discorso è il fatto che spesso in area americana, che è l'altra area in qualche modo che poi vedremo stasera, spesso in dialogo con quella francese, nell'area delle statunitense si usa banalmente un termine experimental, cioè senza stare troppo a dibattere su che cosa, eccetera, perché, e forse la spiegazione è molto semplice, perché si può usare il termine sperimentale con maggiore ingenuità, chiamiamola, o con maggiore tranquillità anche, senza essere attaccati, senza che scattino polemiche, proprio perché non c'è dietro quella tradizione europea o italiana in particolare della distinzione tra sperimentalismo, avanguardia, eccetera, che nasce nel 1957, molto spesso lo dirò, Marco Giovenale dice siamo fermi col dibattito al 1957 in Italia, cioè l'anno della famosissima polemica in prosa tra Sanguinetti e Pasolini su che cos'è avanguardia e cos'è sperimentalismo. Da quel momento il termine sperimentalismo e sperimentale hanno cominciato a prendere o una precisa connotazione, per cui in qualche misura i termini avanguardistici non si potevano utilizzare questi termini, oppure uscendo da fuori dal campo letterario, molto spesso sperimentale era una cosa fatta un po' come capitava, cioè penso però a certe aree del cinema, del video, eccetera. Quindi non c'è questa, cioè diciamo che il termine experimental non è incrostato forse quanto lo è il termine sperimentale in Italia. Questo era per complicare il discorso, per aggiungere altri due termini a ricerca, e l'altro non assertività. Allora, vediamo un po', invece entriamo un po' dentro, cioè qualche procedura, parlo di procedura perché il punto focale credo sia proprio questo, cioè le scritture non assertive, o vogliamo chiamarle come vogliamo, fondamentalmente sono scritture procedurali, cioè nelle quali quello che conta non è tanto o non solo il prodotto, appunto, cioè il testo d'arrivo, diciamo, il testo così impaginato, costruito, cioè da dare a un destinatario che si chiamerà lettore e che in qualche misura è visto solo come tale in una scrittura assertiva, appunto, cioè il lettore è colui che a qualche misura deve decrittare, come diceva giustamente prima Samuele, il messaggio che gli arriva dallo scrittore, poeta, utilizzeremo il termine in senso più ampio possibile. Cioè io ti dico questo, verità o non verità, forse non ci arriverei nemmeno al termine di verità, io ti dico questo, tu lo devi in qualche misura fare tuo, riconoscere. E se ci torniamo un attimo sulla distinzione brechtiana tra identificazione e estraniamento, forse ci capiamo facilmente, cioè in qualche modo ti devi identificare, no? Allora, mentre Samuele parlava, mi veniva in mente che probabilmente non vedremo mai, e non solo per ragioni, come dire, di pubblico, editoriali, eccetera, una Bianca Einaudi, un testo della scrittura di ricerca. Perché se avete presente come è fatta la copertina della Bianca Einaudi, è proprio fatta, sembra apposta per quel tipo di poesia, cioè perché lì ci deve essere quella cosa che è memorabile, per forza, e che lo scrittore, il lettore riconosce come, guarda, no, il termine che ti fa muovere l'animo, ti suscita non so quale tipo di emozione, eccetera. Quello che conta nelle scritture non assertive invece è l'elemento procedurale, appunto. O gioco il termine, prendetelo con tutte le pinze possibili, concettuale. Cioè, le procedure che possiamo riconoscere dentro le scritture di ricerca sono più figlie di arti estranee alla letteratura, penso per esempio all'arte contemporanea semplicemente, o tutto quello che succede su internet, perché su questo arriviamo tra poco, perché in molta poesia non assertiva internet non esiste, non si è mai visto, poi si pubblica su internet, però è come se non ci fosse un oggetto testuale, un mega oggetto testuale. E, dicevo, sono concettuali nel senso, pensiamo all'installazione, no? È un elemento concettuale, lui prima diceva sono pezzi di mondo aggregati all'interno di un dispositivo letterario in questo caso, o testuale meglio ancora. E una installazione è quello, cioè sono pezzi di mondo assemblati all'interno di un dispositivo che funziona in un certo modo, e quindi non è riconoscibile immediatamente nei termini dello stile, eccetera, di cui ti parlava prima giustamente Samuele. Quindi questo è il primo dato, elemento procedurale. Ora, quali sono le procedure? Alcune delle quali non necessariamente inventate ieri, perché mi è capitato di discutere con una persona che diceva ma il catap esiste già da eccetera, e questi pensano di aver inventato il sonetto. Io, attenzione, la il catap è una tecnica, non è un prodotto, non è una forma, intendiamoci. Quindi è come se dicessi che adesso un pittore contemporaneo usa l'olio, allora siccome usa l'olio la pittura, allora pensa di aver inventato la pittura. No, sta usando una tecnica che eventualmente ha una sua datazione ben precisa, che naturalmente del catà degli anni 50-60, che è figlia naturalmente del montaggio cinematografico, eccetera, che però può essere utilizzata in contesti completamente diversi. Ora, a quasi in dissonanza con quello che diceva prima Samuele, direi che io parlerò soprattutto degli americani in realtà, più che dell'area francese, nel senso che poi questa rispondenza è stata molto forte, cioè quello che arriva di qua, al di qua delle Alpi, stavolta nella parte cisalpina, in realtà è spesso il frutto di una combinazione, cioè non è soltanto quello che viene dalla Francia, perché i francesi lo hanno creato, inventato, eccetera, ma perché è il frutto di una costruzione, come dire, tra le due sponde dell'Atlantico. Allora, alcune delle procedure sono, per esempio, e qui devo andare appunto sul discorso internet, il sopoem, cioè la poesia cercata, fondamentalmente. Non so se avete idea di che cosa sia un fan poem, l'idea di meglio spiegata, forse non sua, però meglio spiegata da Keyes Mohammed, che lo diceva, è semplicemente il contrario di un fan poem. Fan poem è: io mi incontro normalmente su internet quello che io riconosco improvvisamente, guarda, qui c'è della poesia, ho trovato questa roba qua che magari è della robaccia, no? Proprio in termini quasi kitsch, che però non è stata costruita come tale, non è stata pensata come kitsch. Cioè, guarda, qua c'è questo testo che magari non è pensato nemmeno come contesto poetico, c'è questo testo che ha un suo valore testuale e addirittura letterario. E il fa un poem fa questo, no? Un po' come per evocare un po' le procedure dell'avanguardia, l'objet trouvé surrealista. In questo caso è l'oggetto trovato, ma non è un oggetto materiale, è un oggetto testuale. Il soul poem è il contrario, cioè sono io che sulla base di una procedura, che naturalmente è arbitraria come tutte le procedure, stabilisco, che so, 4-5 parole chiave e comincio a cercare, quindi utilizzo Google come un sistema, come volete, naturalmente un motore di ricerca, per cercare testi. Dopodiché prendo questi testi e li monto, a questo punto, all'interno, tolgo quello che penso che vada tolto, di solito non si aggiunge, se non ricordo male, si toglie soltanto, e all'interno di un quadro che alla fine produce un testo. Quindi, ma e questa è la cosa fondamentale, in cui non c'è una parola che sia stata messa, tranne naturalmente quelle di partenza, che sia stata messa dallo scrittore stesso, l'autore stesso. Questo è un punto fondamentale delle scritture non assertive, cioè ricordare continuamente che noi non possediamo il linguaggio, ma il contrario. Cioè il linguaggio è già parlato in qualche modo, tutte le parole che usiamo sono già a nostra disposizione, non esiste fondamentalmente una parola sorgiva, che è il grande equivoco della lirica, cioè la famosa parola che viene da dentro, perché la parola non viene mai da dentro, ma viene da fuori, e giocando su questo le scritture di ricerca lavorano con tutte le loro procedure, partendo da questo punto, cioè la sopoem è la sopoetry, volevo dire, è l'emblema forse più evidente, cioè io cerco delle parole ma non ci aggiungo nient'altro di mio, semplicemente sto parlando con parole altrui. Seconda procedura che ha a che fare molto con questa, l'eavesdropping, cioè sono le grondaie, no? Non ricordo male, sì, cioè sto fermo in un posto qualsiasi, affollato possibilmente, pubblico, e registro tutto quello che sento intorno, no? Le conversazioni, cioè come se cadessero le cose dalle grondaie. Chiaramente anche lì faccio un procedimento di selezione, cioè dov'è il lavoro? E lì le parole mi arrivano semplicemente da altri. Poi chiaramente le procedure possono essere milioni, posso lasciare un registratore in un luogo pubblico, andarmene, poi torno e sento che cosa è successo, eccetera. Però è, in questo caso monterò materiale, c'è sempre il montaggio, o disporrò, vogliamo stare sul piano dispositivo, questo materiale all'interno di un ordine che poi stabilisco io. Ma anche lì non c'è nessuna parola che sia stata pronunciata dal sottoscritto. Cioè la riduzione dell'io diventa addirittura forse la, nemmeno la frammentazione, ma l'idea che proprio lascio completamente aperto il campo al, diciamo, all'io degli altri, che però non è nemmeno identificabile in questo caso, perché non si sa chi parla. Molto spesso la difficoltà davanti a certi testi è questa, no? Cioè la domanda è chi parla, chi sta parlando, perché l'idea è che ci sia dentro la poesia una voce riconoscibile, stile o non stile, forse non ci addentriamo nemmeno in questo, però una voce veramente che sta parlando a me, ok? A me lettore. Ora, qui il gioco è il contrario, è il lettore che è chiamato non più a essere un destinatario, cioè ti sto dando questo messaggio adesso, custodiscilo, decrittalo, eccetera, ma costruiscilo insieme a me, cioè lo scrittore e l'autore diventano sostanzialmente due collaboratori, ok? Io ti chiamo a ricostruire eventualmente il tuo significato, che non è necessariamente quello che pensavo io e non è necessariamente quello che penserà un altro, che è quello che facciamo noi quando giriamo intorno a un'installazione, né più né meno. A meno che non sia fortemente orientato, perché sono quelle che fortemente le costruite per le emotività dello spettatore, però di solito succede questo, no? Quindi siamo attenti più appunto alle procedure che ai prodotti finiti, e quindi in qualche modo il lettore è chiamato, visto che parliamo di dispositivo, a scoprire il meccanismo di funzionamento del dispositivo e eventualmente ad azionarlo, vi permettete il termine. Poi altre ipotesi. Una degli elementi che hanno a che fare poi con le scritture di ricerca e con l'attenzione ai testi presi da internet, eccetera, è la caduta nel corso del tempo, io me ne sono accorto più volte, l'ho detto, la caduta della metafora, no? Cioè del pensiero metaforico come elemento riconoscibile della poesia. Cioè per un lungo periodo si è detto, nei termini teorici, che le figure retoriche, in particolare la metafora, erano quasi l'emblema del linguaggio poetico e del linguaggio letterario. No, mi sono portato Silliman per leggere questa semplice frase delle 223 proposizioni che compongono il quaderno cinese. Dice alla 66: in determinate condizioni ogni evento linguistico può essere poesia, qualsiasi cosa, letteralmente. La questione riguarda dunque quali siano queste condizioni, e non lo dice, naturalmente, cioè a quali condizioni. Le condizioni sono storiche, pragmatiche, ovviamente, cioè abbiamo detto che per un periodo la metafora è stata, diciamo, la regina, chiamiamola così, della poesia, era l'elemento che rendeva riconoscibile il linguaggio poetico o il linguaggio letterario in senso più ampio. Oggi non è più così, cioè e tant'è che perlomeno a me oggi quando leggo metafore, cioè di solito i poeti, come dire, le prime armi e particolarmente maldestri riempiono di metafore le poesie, e devo dire che fanno un effetto quasi di gestione spesso, no? Cioè si riconosce qualche cosa quasi fuori sincrono rispetto al tempo. Quindi c'è una forte insistenza sulla letteralità del messaggio, no? Quando, se sto dicendo, poi ci torniamo su prosa in prosa, no? Cioè se sto dicendo che questa non è poesia, cioè se sto dicendo questo, sto dicendo solo questo, non sto intendendo nient'altro, non è che non c'è poi tutti i sovrasensi possibili che dobbiamo andare a cercare, perché anche questo è un elemento essenziale. La non assertività prevede che tu non debba andare a cercare significati reconditi, ok? Se te li trovi, come dire, affari tuoi, ma non te li devi cercare, perché nessuno te lo ha chiesto, cioè non c'è nell'intenzione né dell'autore né dell'opera creare sovrasensi e significati di vario genere. E quindi, cerco un po' di chiudere, la parola concettuale è legato tra l'altro anche a delle precise precisi orientamenti della scrittura, soprattutto degli Stati Uniti, all'area di Kenneth Goldsmith, che intitola il testo CTRL-C, CTRL-V, quindi capite quanto ci sia di creatività nel CTRL-C, CTRL-V, ce l'avete presente, sono i due comandi fondamentali, tra l'altro, credo, nella resistenza di chiunque utilizzi internet, cioè copia e incolla. Proprio, anzi, lui lavora per le scritture non creative, l'uncreative writing è abbastanza interessante in questo senso. Ora, molte delle procedure che di cui magari poi ritorniamo, vedrete, come dire, testimonianza, hanno a che fare appunto con la rete, perché la rete è un grande contenitore, è un pezzo di mondo, perché Silliman sempre dice, in quel pezzo di mondo che è la poesia, che è un testo, perché è quello, è un pezzo di mondo, non è una sua ritrazione, non è un'altra roba, dicevo, questo mega contenitore che è internet, si può appunto trovare letteralmente di tutto. Quindi costruire molto spesso anche la collaborazione dell'immagine, dispositivi, si può fare anche questo. L'ultima cosa, sempre a proposito di internet, il FLARF, questo me lo stavo dimenticando, forse qui Marco poi può dire qualcosa di più. Quello che nasce già kitsch, lo potremmo già, cioè è kitsch intenzionale, il FLARF è quello, cioè, diciamo che è forse l'area più giocosa e più ironica di tutte queste scritture. Sempre nasce in area americana, è quello che forse molto spesso il found poem trova il kitsch, no? E lo esalta, cioè nel senso, attenzione, trovo questa cosa kitsch, la incornicio qualche misura e la esalto. Il FLARF cerca il kitsch, cioè è un kitsch intenzionale, cioè costruito per essere letteralmente kitsch, chiaramente mettendo, perché farlo? Naturalmente perché per mettere in gioco tutte quelle scritture, per prendere in giro, scusate, quelle scritture assertive in cui c'è una figura autoriale riconoscibile, eccetera. Perché qui la figura autoriale, capite che se puntiamo l'occhio sulle procedure e non sul prodotto finale, si perde, cioè non viene meno, come dire, quella specie di iconizzazione che c'è dell'autore, che fa anche molto, ancora oggi, che però viene completamente meno davanti a procedure che sono fatte apposta per smontare questa idea di questa sorta di feticismo, appunto, della figura dell'autore, e del feticismo anche del testo stesso, poi fondamentalmente, del testo come cassa di risonanza anche dell'io, eventualmente del lettore. Io mi fermerei qua, poi se vediamo. Grazie allora per questa esaustiva carrellata, insomma, sui vari procedimenti testuali, insomma, di messa a testo di questi dispositivi. E ci eravamo proposti appunto di fare qualche lettura, se non sbaglio, almeno insomma cadiamo un po' in situazione tutto quello che andiamo dicendo molto teoricamente. E, no, pensavamo, giusto, c'era detto da Marco da Oggettistica e te la potete ragionare a tutti. Ok. Chi inizia? Inizia Marco. Allora, sì, io faccio soltanto una... Mentre parlava Massimiliano, era in mente che tutto sommato noi dobbiamo un gigantesco dispositivo di copia e incolla a tutta la nostra cultura occidentale, perché se i copisti medievali non avessero incollato una quantità di materiali dell'antichità, noi non avremmo probabilmente, non la metà, ma forse l'intero del nostro, della nostra, per quanto discutibile e criticabile quanto vogliamo, cultura occidentale. Allora mi chiedeva Samuele di leggere Romanzo, che è un testo, come vedete non mi sono preparata, non lo trovo, che è piuttosto lungo, quindi io pensavo di leggerne una parte soltanto. Allora, lo trovo più facilmente così proprio perché è lunghissimo. Se leggo quello dei tag, è la stessa cosa? Perché il romanzo, proprio il romanzo, questo è un testo di rifiuto del romanzo. In realtà io ho scelto quello e così per non adulti di Michele proprio per questo. Per rifiutare il romanzo e rifiutare la poesia. Ok, allora metto il Kaliningrado compito, romanzo. Non so se lo leggerò tu. Sto per completare il mio romanzo, il romanzo è quasi finito, il romanzo è finito, mi accingo a scrivere un romanzo, il mio romanzo sta per essere pubblicato, il mio primo romanzo, il secondo romanzo, quando ancora non avevo scritto il mio primo romanzo, quando avrò scritto il mio primo romanzo senza il romanzo, con due romanzi nel cassetto, dormo con un romanzo sotto il cuscino, il romanzo e la poesia sotto il romanzo, preferisco i romanzi alla poesia, la poesia soprattutto, ma non sopra il romanzo, sotto il cassetto del romanzo. Preferisco la poesia ai romanzi, non mi piacciono i romanzi, ma i romanzi sì, e non mi piace la poesia, in quel romanzo si gioca ai dadi. Io leggo soltanto romanzi, mi manca una decina di pagine e poi ho finito il romanzo, sto leggendo un romanzo. Da quel romanzo è stato tratto un film, dal mio romanzo verrà tolto un film. Poche righe ancora, il romanzo è finito, è la fine del romanzo, non ci sono più romanzi, la gente non scrive più romanzi, la gente non legge più romanzi, la gente legge solo romanzi, i romanzi hanno egemonizzato la letteratura è fatta solo di romanzi, esistono solo i romanzi, senza romanzi non si sa cosa si potrebbe leggere, non ci sono più romanzi di una, dove sono finiti i romanzi di una? Ci sono troppi romanzi, scrivono solo romanzi ottocenteschi, scrivono solo romanzi come si scriveva una volta, ancora il romanzo del Novecento, ancora il Novecento del romanzo, quanti romanzi? Ma perché leggi i romanzi? A te piacciono i romanzi, a me piacciono i romanzi, un romanzo con pezzi di romanzo dentro, un romanzo al romanzo, al sapore di romanzo o di film, un romanzo espulso dal partito, un romanzo eretico e sconveniente sottoposto a romanzeschi controlli di polizia, ella riceve un romanzo in dono, questo romanzo è giallo, questo romanzo è erotico, questo romanzo è rosa, quel romanzo non mi è piaciuto, quell'altro sì, c'è un romanzo in questa sala, c'è un romanzo in questa classe, presto datemi un romanzo, si è spento il romanzo, è come andare dal meccanico quando si rompe un romanzo, bisogna aggiustarlo, il romanzo aperto, ventilato, è un romanzo sperimentale, un romanzo che non vorrei sperimentare. Ma tu, quanti romanzi hai letto? Ieri non riuscivo a dormire per colpa di quel romanzo. Da quel romanzo è stato tratto un horror veramente terribile, un romanzo di serie B, un romanzo di prima classe. Mancano romanzi nella nostra società, non si parla che di romanzi, sono catturato da un romanzo, un film, sto organizzando una gelateria, sto divorando un romanzo, mi canta un romanzo. L'amore romanzo è un romanzo d'amore, un romanzo noir, un romanzo rosa, l'ho già detto, il romanzo, senza trama, romanzo senza possibilità di conclusione, un romanzo chiusissimo, è un romanzo in sonetti, è un romanzo in endecasillabi, è un romanzo con un personaggio che non si capisce chi è molto indefinito il personaggio per via del romanzo, è un romanzo con caratteri troppo marcati, la gente non lo compra il romanzo così, la gente non legge romanzi se non hanno caratteri molto marcati, il linguaggio del romanzo deve essere semplice, il linguaggio del romanzo deve essere complesso, il linguaggio del romanzo deve essere incomprensibile, il linguaggio del romanzo deve essere leggibile da tutti, il linguaggio del romanzo deve essere un segnale di pericolo, il linguaggio del romanzo deve essere ortofrutticolo, anche il fruttivendolo deve poter leggere il mio romanzo. Ho quasi finito il mio romanzo, sto per iniziare il mio romanzo, zitto, il romanzo sta iniziando, il romanzo ringrazia, è tutto un romanzo, la mia vita è un romanzo, la tua vita è un romanzo, la sua vita. Basta. Allora, leggo un pezzo dalle poesie per giovani adulti, dal capitolo intitolato I. I zombie vi sono qui che saltano fuori da ogni parte attorno e le mani loro spuntano da sotto delle tombe, da sotto delle macchine, da sotto degli alberi, per fare degli esempi di da dove spuntano fuori. E sono zombie cattivi, non sono zombie svegli, non sono romantici, non sono disinvolti, sono tutti zombie rallentati, si muovono tutti a scatti come fanno gli ingranaggi quando sono arrugginiti. E poi vi è anche tutta la gente in giro, che se ne vanno in giro proprio nel bel mezzo di tutti quei zombie e fanno i poliziotti simpatici, fanno i ferramenta, fanno i proprietari dei motel con altra gente dentro, fanno i benzinai e sono giovani e sono informati sui fatti. E anche se sono informati, a volte però i zombie se li mangiano, a volte invece però la gente scappano e ai zombie gli fanno saltare la testa a furia delle fucilate. oppure gliela staccano a colpi di spada, a colpi di macete, a colpi di ascia, quella dei boscaioli, o anche prendono le cesoie che ci tagliano i cerchioni e poi se ne vanno in giro sulla loro macchina e evitano i zombie. E i zombie invece vanno e vengono, e anche la gente vanno e vengono, e più che vanno e vengono, e più anche per me mi farebbe piacere che me ne vado in giro in mezzo ai tutti i zombie che saltano fuori da ogni parte attorno, in mezzo alla tutta gente che se ne vanno in giro proprio nel bel mezzo di tutti quei zombie, e mi farebbe piacere soprattutto se in giro vi verresti anche tu, e prendiamo, corriamo, ci stringiamo per mano e ogni tanto ci mettiamo che scappiamo via o ci nascondiamo dietro di un muretto, dietro di un albero, dietro di una macchina, per fare degli esempi di dove ci nascondiamo, e poi usciamo fuori e ci teniamo forte per mano e stacchiamo le teste, anche noi le stacchiamo, e ci divertiamo un po' e passiamo una serata diversa, facciamo qualcosa insolita che tutti i zombie ci vedono che noi siamo vivi e ci vogliamo bene, e loro su questa cosa non vi possono fare proprio niente. Allora, dopo questa lettura è difficile riprendere la cosa. No, però abbiamo visto, diciamo, due modi diversi di sabotare dall'interno due generi letterari, insomma, ben precisi. Da una parte il romanzo, con, diciamo, nel caso di Marco, insomma, un testo in prosa che è basato su una certa ripetitività ossessiva. Nel caso di Miguel, invece, come se si impossessasse delle istituzioni della lirica tradizionale e le portasse appunto all'eccesso, alle estreme conseguenze di una sintassi appunto che abbiamo sentito, crea degli effetti poi di ironia, no? Come abbiamo potuto sentire. No, adesso volevo parlare con Marco di alcuni momenti di aggregazione intorno appunto alla categoria delle scritture di ricerca e delle scritture o delle scritture non assertive, come ad esempio appunto la fondazione del sito GAM, di cui abbiamo già in parte parlato, che è un sito di materiali sperimentali che è attivo da 18 anni, se non sbaglio. Dal 2006. Dal 2006, quindi adesso è maggiorenne appunto, sì. E ha la macchina. è un sito appunto che promuove materiali di ricerca, diciamo così, insomma, non soltanto scritture ma anche altro. E ecco, io vorrei chiederti un po' della gestazione appunto del sito, cioè come è nata l'idea, insomma, parlare un po' del momento proprio della fondazione, e poi qual è stato effettivamente il lavoro di traduzione che avete portato avanti attraverso il sito. Sì, il foglietto che vi davo, poi chi è venuto dopo magari potrà prenderlo perché ne ho altre copie, è una specie di pagina statica che ha proprio in cima tra il primo sito che cita è GAM. Quindi è una pagina statica che serve da link a tutta una serie di pagine in rete, siti, blog, archivi anche, che si occupano appunto di sperimentazione, di scrittura di ricerca o non assertiva. E questo sito nasce appunto nel 2006, ma la gestazione effettivamente è precedente. C'è forse una piccolissima premessa storica che dovrei in qualche maniera fare, nel senso che per certi aspetti, prima è stato giustamente citato il gruppo 93, che prende il suo nome dallo scioglimento del gruppo 1993, che poi chiaramente non è uno scioglimento vero e proprio, perché i singoli autori continueranno a produrre materiali sperimentali per lungo tempo. Ma diciamo, tutto l'arco degli anni in realtà 80 e buona parte degli anni 90 era stato attraversato non soltanto da una fortissima decrescita dell'interesse da parte dell'editoria e da parte della pubblicistica, delle riviste, eccetera, per i materiali sperimentali che nell'arco degli anni 70 avevano avuto un grandissimo impulso, non soltanto per motivi letterari ma anche politici. C'erano riviste che avevano in qualche maniera un doppio registro o un registro unico a due volti, un volto anche fortemente militante. Militante nel doppio senso, nel senso della diffusione appunto delle tecniche sperimentali, delle modalità della sperimentazione, e anche dal punto di vista dell'abbracciare il nuovo, dell'abbracciare ciò che andava cambiato o stava già cambiando. alla fine degli anni 70, sappiamo che questa è o l'inizio degli anni 80, comunque sappiamo benissimo che il decennio degli anni 80 è un decennio di involuzione e di regressione per tanti aspetti, anche appunto banalmente politici. Qualcosa cambia sia nell'editoria sia nella ricezione delle scritture, ma soprattutto direi sì, effettivamente nell'editoria. È un processo lungo che porta, per esempio, tra i tanti suoi effetti, all'inizio degli anni 2000, alla rescissione dei contratti con le riviste di letteratura da parte delle Feltrinelli. Cioè dall'inizio più o meno degli anni 2000 voi non trovate più o trovate meno, molto molto meno, riviste letterarie nelle librerie di catena, generaliste. Questo ha delle conseguenze banalmente, che sono culturali e di conseguenza anche politiche, oltre al fatto che chiaramente è tutto politico, quindi anche se si trattasse di riviste di giardinaggio non va bene lo stesso. Ora, in concomitanza con queste scelte puntuali, precise, che hanno dei responsabili, che poi nel tempo ne renderanno conto una storia, se è una storia di qualcosa del genere, come la scrittura di ricerca continua a esistere, c'è stata anche tutta una serie di eventi inevitabilmente, diciamo così, anagrafici: la morte di molti autori che si occupavano di scritture sperimentali. Ne nomino a raggiera, senza andare a fare cronologie precise, alcuni. Lo stesso Italo Calvino, che forse è un nome che non normalmente, non necessariamente viene registrato sotto la rubrica sperimentalismo, ma di fatto con una quantità di sue opere, non soltanto quelle che più afferiscono a un ambito, diciamo, procedurale, ulipiano se vogliamo, come, non so, Le città invisibili o Se no notte d'inverno, Un viaggiatore, ma anche il Calvino più forse impalpabile, quello della prosa di Palomar, per esempio, è riconosciuto da molti, per esempio, della nostra generazione come un grande esempio a cui guardare. Quindi dalla morte di Adriano Spadola, la morte di Corrado Costa, Patrizia Vicinelli, 1996 il suicidio di Amelia Rosselli, che chiaramente va inquadrata in un modo ancora più particolare. Ovviamente ognuno di questi scrittori aveva una sua identità, alcuni più fortemente militanti, come appunto Adriano Spadola, che è stato un mulino nel suo mulino di produzioni editoriali, e altri più appartati, che però comunque producevano una serie di materiali. Quindi queste due contingenze hanno fatto sì che si arrivasse alla fine degli anni 80, per chi era nato alla fine degli anni 60, con un orizzonte di aspettative molto forte, che però veniva castrato dai fatti, cioè dal fatto di non trovare in scaffale alcuni testi, e che poi alla fine degli anni 90, inizio 2000, sarebbe stato addirittura peggiorato dal taglio delle riviste letterarie e da altri eventi ancora. Quindi personalmente ho pensato negli anni appunto del 90 che fosse forse più opportuno, diciamo, immergersi e studiare piuttosto che partecipare a convegni, incontri, letture che o riprendevano vecchi esperimenti del gruppo 93 oppure semplicemente riportavano tutto quanto sul piano banale della poesia lirica, poesia assertiva, eccetera, eccetera. Questa cosa è successa non soltanto a me, è successo anche a altre persone. All'inizio degli anni 90 Michele Zaffarano era in Francia e studiava questi autori di cui tra poco parleremo e che lui poi ha tradotto. Gherardo Bortolotti alla fine degli anni 90 si è trovato a tradurre tantissimi statunitensi, tanto da produrre un saggio che vi troverete facilmente in rete cercandolo su Google, che si titola La scoperta dell'America, e che registra proprio questo suo passaggio, questa sua passeggiata, se vogliamo, ricca di link, di curiosità, di scoperte, tra autori che l'Italia non vedeva assolutamente tradotti e non avrebbe visto mai, se non fosse stato per, purtroppo devo dirlo con un tot di orgoglio, Michele Zaffarano, Gerardo Bortolotti, me, Alessandro Broggi, e anche Andrea Inglese, Andrea Raos, che con questo sito gamm.org hanno iniziato a tradurre queste cose che non comparivano, non sarebbero mai comparse in Italia se non fosse stato per questa nostra un po' piccola follia, che è stata possibile anche per un altro motivo, perché all'abbrivio tra fine anni 90 e inizio anni 2000, sì, la carta si ritirava, ma veniva sulla scena la possibilità di connettersi con una quantità di realtà internazionali, parlando l'inglese e il francese senza problemi, non avevamo problemi a farlo, attraverso internet. adesso sembra una cosa normale, naturale, apriamo il cellulare e troviamo quello che vogliamo. All'inizio degli anni 2000 questa cosa andava fatta, cioè andava creata, andava supportata attraverso delle, appunto delle strutture. Si data grosso modo, diciamo ufficialmente, diciamo così, al 2003 la nascita dei blog in Italia, perché diciamo forse uno dei più importanti, che è Nazione Indiana, nasce in quell'anno, con una storia un po' particolare su cui adesso non sto a soffermarmi, e nasce anche Il Primo Amore, e nascono tutta una serie di blog personali da una piattaforma, per esempio, che si chiamava Splinter, che poi non esiste più adesso, e poi Blogsome, Blogspot, che poi sarà acquisito da Google. Inizia anche il lavoro degli youtuber, inizia il lavoro del su tante altre piattaforme. Una che probabilmente avrete sentito e che adesso è quasi completamente abbandonata è MySpace. C'erano tante persone che mettevano materiale su MySpace. Sarebbero poi nati i social, che avrebbero ulteriormente diciamo irraggiato le possibilità di contatto. Tant'è vero che io la prima iscrizione a Facebook l'ho fatta semplicemente per rimanere in contatto con gli statunitensi, perché così potevo contattare direttamente Peter Ganick, Jim Leftwich, tutti i nomi che, ripeto, senza un certo tipo di lavoro in Italia mai sarebbero in nessun caso, in nessun modo passati. Non soltanto quelli un po' più appartati, come quei due nomi che ho appena fatto, Peter Ganick purtroppo tra l'altro ci ha anche lasciato, ma anche nomi più importanti come Anne Boyer, di cui si parlava prima di entrare qui, che ha vinto il Pulitzer, poi l'ha vinto per un libro molto, molto più esatto, fruibile, se vogliamo, non certo per un testo sperimentale, però lei è partita proprio nell'ambito della Flarf Poetry. Flarf vuol dire fuffa, quindi è una scrittura diciamo molto giocosa, a volte poco politically correct, che gioca con alcuni luoghi comuni per metterli un po' alla berlina. Ora, che cosa ha fatto Michele Zaffarano mettendo a frutto la sua esperienza di traduzione e di confronto con questi autori francesi? Ha gratuitamente messo a disposizione una quantità enorme di materiali, non soltanto sul sito GAM, ma anche attraverso una collana inizialmente ospitata dalla casa editrice Arcipelago, non Arcipelago Itaca, Arcipelago, che la collana si chiamava Chapbook, e ha tradotto ben 27 titoli. Vi leggo soltanto i francesi: Jean-Michel Espitalier, Olivier Cadiot, Christophe Tarkos, Emmanuel Occard, Nathalie Quentin e credo Jean-Marie Glaise, e con i francesi stop. Poi alcuni italiani e un buon numero di anglofoni, anglofoni perché non erano soltanto statunitensi, ma anche uno straordinario canadese che si chiama Jeff Derksen, cercatelo in rete. È un autore secondo me straordinario, che lavora con stringhe di frasi quasi banali, ma in realtà straordinario nel complesso. Poi comunque attraverso questa collana, che nasce appunto nel 2004-2005, inizia la diffusione di queste strane testualità, che tanto strane non sono, nel senso che poi se noi andavamo a fare delle letture in pubblico, le persone, avete ascoltato insomma, non si trovavano spiazzate come di fronte a testi particolarmente complessi e che chiedessero chissà cosa al lettore. Diciamo, l'ascolto era sostanzialmente abbastanza favorevole, soprattutto per alcuni testi. Altri potevano essere più complessi. I primi due titoli, Marte ha bisogno di terroristi, di Casey Selim Mohammed, e invece 62 unità di prosa scritte da Malato, di Rodrigo Toscano, tutte e due tradotte da Gerardo Bortolotti, sono due testi all'opposto. Cioè, Marte ha bisogno di terroristi, è leggibilissimo, divertente, è un testo FLARF classico. 62 unità è un testo complesso, estremamente frammentato, in cui le unità frasali vengono scomposte in maniera molto oggettivamente esplosiva. Il terzo testo di Jean-Michel Espitalier, La strada per Pondicherry, è un testo che a partire da questa domanda ti insegna ad arrivare a Pondicherry, metro per metro. Quindi è un testo enorme, lunghissimo, qui prendi a destra, poi giri a sinistra, è un testo illeggibile sostanzialmente, e costituisce un esempio classico di un altro tipo di scrittura o di procedura delle scritture non assertive, che possiamo chiamare scrittura installativa. Che cos'è una scrittura installativa? Una scrittura installativa è una scrittura che non devi necessariamente percorrere linea per linea, ma è un po' come un'installazione, come una scultura, ci giri intorno, hai capito qual è il meccanismo, qual è la procedura. E quello è un testo che quindi sta un po' al confine con l'arte contemporanea. C'è un testo famoso di, che cito sempre, di Valère Novarina, che è stato ispirato prima su Nazione Indiana, tradotto da Andrea Raos e tradotto e riproposto anche da Gam, che tradotto da Andrea Raos per Nazione Indiana e poi riproposto anche da Gam, che traduce soltanto la parte finale di un testo che si intitola Il dramma della vita. La parte finale è questa. Allora, io sono Adamo e prima di me vengono e c'è una valanga di non so quante, forse migliaia di nomi. Nomi buffi, nomi scherzosi, che un francese legge ridendo, ma una tale quantità di nomi che è impossibile leggerli tutti. E di conseguenza ci si gira intorno come si guarderebbe una stele o una sfera di pomodoro di cui non si vanno a calcolare i singoli fori. Ecco. Quindi questa è la collana di poesia che come ultimo testo ha quello di un autore che probabilmente avete sentito per altre ragioni, pubblicato anche dall'editoria di maggiore distribuzione, si intitola Angolo di imbardata quarto di Ben Lerner. Ora, su Gam escono però moltissimi altri autori, io qui ho soltanto un elenco limitato, Patrick Bouvet, Julien Blaine, poi Eric Suchet e poi alcuni classici, insomma abbiamo tradotto anche The Border, tradotto Michele Zaffarano, The Border da Perec. Di Perec trovate per esempio Il tentativo di esaurimento di un luogo parigino, che voi trovate volendo stampato soltanto, forse se c'è ancora, in un'edizione che aveva fatto Voland, c'era un'altra edizione precedente, però è uno di quei testi fondamentali per la ricerca letteraria che appunto è merito di Michele aver in qualche maniera reso disponibile a tutti. C'è stato dato anche il permesso, per esempio, per ricollegarci anche a una tradizione precedente, di avere tra i nostri book l'integrale testo di Partita di Antonio Porta, che è un testo fondamentale dal punto di vista di una narrativa non romanzesca nel senso classico del termine. E questo per dire che appunto con Gam, diciamo, l'incipit, quindi la nascita di questo sito nel 2006, veniva preparata da tutta una serie di cose, da tutta una serie di eventi negativi, come abbiamo detto, e positivi, cioè il cambio di registro di un certo tipo di editoria, di un certo tipo di orientamento dei direttori di collana delle collane di poesia e però nello stesso tempo anche la capacità di affrontare, di andare a cercare dei materiali che altrimenti l'Italia non avrebbe mai importato. La gratuità di internet, gratuità fino a un certo punto perché comunque un sito costa, però all'inizio Gamma era addirittura un blog, quindi era gratuito, non pagavamo nulla. E adesso la cifra per tenere in piedi un sito è irrisoria, insomma si sostiene tranquillamente. E all'inizio i quattro curatori sono stati appunto Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Michele Zaffarano, io e si è raggiunto anche Massimo Sannelli che però poi per idee insomma parzialmente divergenti poi ha lasciato il sito e nel tempo hanno collaborato anche altri con Andrea Inglese, Andrea Raos, Fabio Teti e attualmente Andrea Raos rimane e si è aggiunta anche, ma in realtà ormai da più di 11 anni, Mariangela Batteri, che ha recentemente pubblicato dall'altro un libro bellissimo con l'edizione del Berri, che proprio oggi viene presentato a Milano. L'ultima cosa che volevo dire è questa, e chiudo. Si scava sotto gli anni 90 perché il panorama intorno è desolante. E improvvisamente Michele Zaffarano da una parte, io e Alessandro Broggi dall'altra ci troviamo a riemergere, guardarci intorno e dire ma probabilmente stiamo facendo lo stesso discorso, che noi non ci conoscevamo prima. Io ho conosciuto Alessandro Broggi in un convegno organizzato da una rivista che si chiama Atelier a Palazzo Vecchio e io facevo un intervento su scritture contemporanee e arte contemporanea e Alessandro Broggi in quel periodo curava una collana di arte contemporanea, una rubrica di arte contemporanea per una rivista e venne a parlare con me perché non c'era modo di parlare delle stesse cose con altri e si è scoperto poi che Alessandro Broggi era stato all'università con Gerardo Bortolotti e Michele Zaffarano, quindi è come se avessimo veramente come talpe scavato sotto un periodo infame e infernale e ci fossimo ritrovati guardandoci intorno nello stesso fazzoletto di terra dicendo beh adesso che facciamo? Fondiamo il sito e questo è quello che abbiamo fatto. Grazie Marco insomma per tutte queste suggestioni, diciamo, e poi tra l'altro la questione delle buche, insomma, ho fatto pensare al testo di Michele, insomma, scavare buche. Scavare buche. E, no, volevo parlare poi anche di Prosa in Prosa, visto che prima, insomma, l'abbiamo tirato in ballo, che è questo libro, in realtà questa è una ripubblicazione da Hit del 2020, se non sbaglio, quello invece è... Ah, è uguale. Sono le due versioni, io ho questo perché nel 2009 avevo 12 anni, non potevo muovere. Comunque Prosa in Prosa è piccola crudeltà. Prosa in Prosa è un concetto, insomma, lesia, no? E qui dentro ci sono testi di Andrea Inglese, Gerardo Bortolotti, Alessandro Broggi, Marco Giovenale, Michele Zaffano, Andrea Rossa, testi, insomma, ci fosse bisogno di ripeterlo in prosa, no? Insomma, tautologica, diciamo, è abbastanza significativa sotto questo punto di vista. E qui volevo chiederti che cosa intende Inglese, appunto, per Prosa in Prosa, e che cosa significa Prosa in Prosa anche al netto, appunto, degli anni, cioè, nel senso, è un testo comunque abbastanza datato, che ha suscitato un certo dibattito, no? Nelle nostre padre lettere, e quindi volevo chiederti un po', insomma, di questo, di parlarci un po' del libro in generale e poi anche del dibattito che è uscito fuori. Certo. Allora, Prosa in Prosa nasce appunto con quella veste grafica che avete visto, con una veste grafica in fondo scherzosa, che era in realtà una specie di robottino che si avvicina a una tenda metallica, una specie di alieno che sta all'attacco. In realtà era una fotografia di uno sgombero a cui io, in maniera abbastanza orripilata, dovevo assistere, perché era lo sgombero di casa di mio padre, che aveva accumulato una quantità di materiali allucinante. E credo che questo fosse tipo un motore di un aereo, qualcosa del genere, e questo qui fosse una specie di calorifero per piscine, cioè potete capire, no, il grado di, insomma, scarsa sanità che sta dietro al possedere oggetti del genere, e ci è sembrato in qualche maniera che riproducesse la scarsa sanità mentale di organizzare un libro come questo. Che vuol dire Prosa in Prosa? Prosa in Prosa vuol dire quello che dice, cioè sostanzialmente non è che cerca di venderti, come qualcuno ha detto, due prodotti al prezzo di uno, ma in realtà è una prose très prose, come dice Jean-Marie Glaise, cioè, tra l'altro Glaise lo usa con la prose con una S plurale tra parentesi, una prosa in prose anche, volendo, come a dire che ci troviamo di fronte a una testualità che non vuole accedere a nessun tipo di marcatore del poetico, nessuna volontà di fare poesia, di chiamare a sé il lettore alzando, come diceva, chi diceva, forse te ne porta qui poesia, no, Franco Fortini diceva qui poesia, no, questo non è un cartello che viene innalzato da nessuno qui, e nello stesso tempo non vuole fare narrativa, cioè anche questo è abbastanza importante, cioè non soltanto non vuole fare romanzo, ma non vuole fare una scrittura che, diciamo così, impegni il lettore nel percorrere un labirinto che già l'autore ha percorso. In questo il desiderio di tenersi in qualche maniera fedeli a un'idea di ricerca, come ricerca di qualcosa che lo stesso autore non conosce completamente. Quindi c'è un tratto di ambiguità, di non noto, di non preorganizzato, prearchitettato, che comunque attraversa un po' tutto il libro e tutte le sezioni. Ogni sezione è sostanzialmente una sorta di piccolo libro a sé, dei sei autori. I sei autori, perché questi autori e non altri? È un libro maschilista, ma in quel periodo lì, in quel momento, noi eravamo noi i redattori di Prosa, di Gam, e avevamo fatto un libro circoscritto a quello. È anche vero che alcune autrici che avrebbero fatto questo tipo di scrittura, appunto, l'avrebbero fatto, quindi diciamo che questo libro è stato importante forse anche per alcune autrici che si sono avvicinate poi a queste modalità successivamente. Nelle due prefazioni che aprono e chiudono il libro, scusate, prefazione e postfazione, Paolo Giovannetti insiste nella possibilità, almeno, del libro di inserirsi comunque in una idea di poesia, per quanto in prosa e per quanto particolarmente dentro la natura antipoetica, insomma, della prosa, della poesia, e nella postfazione Antonio Loreto invece tiene fermo il punto della, della prosa in quanto tale. Il libro è anche, ironicamente ovviamente, corredato, cioè nel sottotitolo, 500 con 504 illustrazioni in bianco e nero nel testo, che sostanzialmente sono una specie di collage di scatti quanto più possibile accostati secondo una natura totalmente sì, arbitraria e molto legata all'esperienza quotidiana e a, quel, e a quella idea di quotidiano che viene anche sollecitata da scritti proprio come questi. Quindi una quotidianità a volte anche estremamente banale, estremamente piatta, con una scrittura, per usare un'altra espressione di Jean-Marie Glaise, della nudità integrale, cioè senza metafore, senza voli pindarici, senza scelte sopra le righe o connotate da un desiderio di avvicinarsi a una, come dire, a una ispirazione fontale o una qualche parola originaria che nessuno di noi ha mai pensato esistesse in realtà. E questo non so se diciamo un po'... Voglio solo aggiungere, per mescolare un filino le carte ancora tra prosa e poesia, c'è una nota all'interno in un saggettino di Glaise qualche anno dopo, cioè qualche anno prima, scusate, e, inserisco a questo punto quello che scrive Olivier Cadieux, e cioè che la poesia è la continuazione della prosa con ogni mezzo. A questa definizione voglio però aggiungere che la poesia non può essere altro che una continuazione, deformazione, riformulazione, trasformazione della poesia con ogni mezzo, compresa l'invenzione di prose e quindi anche della prosa in prosa. Allora, Olivier, ci tengo a dirtelo, la prosa è anche la continuazione della poesia con ogni mezzo e partendo da qualsiasi punto. Questo viene da qualche uscita, si intitola così questo libro perché traduce un libro che è uscito nel 2009, molto importante, se potete cercarlo nella libreria, libreria francese, che credo che sia ancora disponibile, Sorti di Jean-Marie Glaise. Che raccoglie tutta una quantità di saggi che Glaise fino a quel momento aveva scritto. Una scelta di questi saggi, tradotta in italiano, se non volete leggerlo in francese nella sua interezza, una scelta è in questo libro che ha pubblicato Michele con la casa editrice TIC, nella collana che appunto lui dirige. E lì troverete prosa in prosa, nudità integrale, post poesia, tutte quelle formule e espressioni che noi cerchiamo qui un po' di circumnavigare. Mettere insieme. E, allora... abbiamo saltato una parte che avevo previsto in realtà, cioè quella della lettura di un testo di Nathalie Cantan tradotto da Michele su Gamma, che è un caso, diciamo, di traduzione, d'occasione in realtà, di un'occasione molto tragica, perché è un testo che Nathalie Cantan ha scritto sulla condizione, insomma, palestinese, e Michele l'ha tradotto contemporaneamente, lo ha pubblicato su Gamma nell'aprile di quest'anno. Sì, sì, l'aprile. E quindi magari facciamo una lettura di questo. Allora, c'è anche un piccolo cappello introduttivo. Caro Michele, che è stato tradotto e messo insieme. Allora, caro Michele, che mi racconti, ci sono novità. All'inizio di questa settimana ho scritto un breve testo perché sembra che le cose in Francia non vadano molto bene quando si cerca di parlare di quello che sta succedendo in Palestina, con la polizia che convoca deputati, giornalisti e sindacalisti e li accusa di apologia di terrorismo appena esprimono la necessità di chiedere il cessate fuoco a Gaza. Puoi fare girare questo testo come vuoi e come puoi, se necessario, anche riportando quello che ti ho appena scritto. L'ho fatto letteralmente. Un abbraccio, Nathalie. Perché era un periodo che in Francia era proprio, erano sotto osservazione speciale. Allora, nella striscia di Gaza le strade non sono impraticabili e il viale che costeggia il mare non è stato distrutto e continua a costeggiare il mare. L'acqua c'è, l'acqua potabile c'è, la corrente elettrica c'è, i bagni ci sono. Nella striscia di Gaza si va al bagno e i bagni non sono strapieni, hanno tutti il kit di igiene e il bagno e le persone non sono tutte quante trattate come spazzatura. L'accesso a internet non è stato tagliato perché i bombardamenti non sono assolutamente incessanti e la corrente non manca per niente. Si possono ritirare tutti i soldi che si vuole visto che le banche non sono state distrutte. Gli abitanti della striscia di Gaza non sono stati fatti sfollare e continuano ad abitare nelle loro case non distrutte e non incendiate. E anche le loro macchine sono non distrutte e non incendiate. Non è stato raso al suolo tutto. Di conseguenza non si può nemmeno dire che anche i cimiteri sono stati rasi al suolo e che i cadaveri delle varie tombe sono stati ributtati tutti quanti assieme e nessuno si è filmato mentre distruggeva un condominio per dedicarlo alla figlia che compiva gli anni. Sempre in quest'ottica, nessun ferito e nessun malato è stato sepolto vivo nel cortile dell'ospedale dove era stato ricoverato e le provviste rimaste agli abitanti non morti di un quartiere non devastato non sono state messe a fuoco e nessun civile praticamente nudo e inginocchiato in mezzo alla strada è stato filmato. E quando per caso nella striscia di Gaza sono stati riesumati alcuni cadaveri già sepolti, non è stata scavata. Stata scavata nessuna fossa comune vicino alla spiaggia e non è stata fatta venire nessuna ruspa per ricoprire questi cadaveri di sabbia durante il funerale. A Gaza sono nati parecchi bambini perché gli ospedali non sono non distrutti, le medicine abbondano e i neonati non rischiano di morire. I bambini non vengono amputati senza anestesia e nessuno chiede di farsi riattaccare le gambe. Quando fa bello non si va in spiaggia per lavarsi, ma per fare il bagno e giocare a palla, anche perché le tende non scottano come forni e l'aria non è infuocata. Gli abitanti della striscia di Gaza continuano a mangiare in ufficio, per strada, in casa, nei campi o in macchina, perché le panetterie non sono state prese di mira e non ne rimane una sola. Quindi i bambini non sono costretti a vagare senza riuscire a trovare almeno un po' di pane e nessuno si diverte a impastare semi o cibo per animali macinato per fare un prodotto surrogato. E poi per esempio mangiano fave, tonno e fagioli in scatola e se non ci sono più fave, tonno e fagioli in scatola si mettono a raccogliere erba così non devono ridursi a mangiare il foraggio. Beh, non è che è andato moltissimo. Insomma, sono d'accordo anche nel meccanismo di debraiage di cui parlavo prima, perché la negazione in realtà poi è un'affermazione, cioè diventa un'affermazione. Al di là insomma di tutto questo tornerei a prosa in prosa, anche se adesso è difficile, sto facendo insomma un'altalena emotiva piuttosto curiosa, però dicevo vorrei tornare a prosa in prosa e farvi leggere due testi da prosa in prosa. Allora, vabbè, ovviamente le punte. Allora, qui avevo pubblicato una sezione che si intitola Wunderkammer, ovvero come ho imparato a leggere. Leggo, vabbè, giusto il primo testo. Partiamo dalla congettura che quel che sta dietro sia meglio di quel che passa attraverso, che l'atto di lettura nient'altro sia che un consumare, un cancellare quel che è stato in prima scritto, un filtrare nutrimenti che infine non nutrono, un eterno barcollare da trama a trama, da brama a brama o da brama a voluttà. E nella voluttà il cervello, la sete di brama, lo consuma il cervelletto e ripercorre. Sta pure scritto traditur fugam in oceani longinqua agitavisse, ed ecco, sull'arteria e poi all'interno del cranio, senza desiderio. Se questa pulsione a chiudere non è l'inizio, cosa manca alla parola? E dove pausa? Tu vaglia. La vena femorale, le sacche vuotate dal liquido sanguigno, i tessuti dove si allargano, le parti singole dei tessuti, polpastrelli, dalla scalotta cranica alla scatola cranica, fino all'encefano, a tuo gradimento. La parola si produrrà come fading, non è l'inizio e non è la fine, non si dà a leggere per quel che è, si dice che sembra, che pare, e vuol dire che l'esser letta, l'esser detti, è incartamento che mai si completa. Ma occorre pur dire qualcosa, qualcosa bisogna che possa ripetersi, a che non vi sia più inizio, a che non vi sia più fine. Il fantasma parla, dalla nuca alla fronte, di traverso, da dietro in avanti, da dietro fin dentro i bulbi oculari, da dentro, da destra. È una torsione impossibile del braccio, del polso, è il verso della ragione frontale. Invece la mia sezione si intitolava Diario del viaggio, giornale del viaggio in Italia, e leggo un testo che si intitola Verso il certo. Vuole viaggiare e rendersi utile, vuole passare nel corridoio, è appena passato. È molto gentile e aiuta la signora bionda Agé a salire la valigia. Il fiume che il treno taglia è molto impetuoso e questo impeto raffigura l'animo umano. L'animo umano ha scalato le montagne in immagine e costruito non solo grandi blocchi di cementite odontogenica che al primo caldo la natura possente sbriciola, ma anche le marche delle valigie da cui discendono dei quadri viventi che vengono trasmessi a distanza nelle case delle persone. Lui vorrebbe essere nelle case delle persone a volte, come Yevtushenko in qualche sua pagina interminabile. Vorrebbe perfino essere quelle persone stesse, non alcune, ma tutte, vorrebbe essere tutti. e risparmia l'elenco. Dice: prego alla signora che si ravvia i capelli come lui, come nei corridoi sono scostumati i soldati, mentre per chilometri e chilometri nei magazzini fuori Parma si accumulano i bomboloni in file, forse più precisamente le tranciatrici a vite. La robinia, che è invasiva, pervasiva, di pure un po' perversa, l'influenza tra febbraio e ferragosto. Il passaggio alla vettura successiva vede un incremento della buona volontà ormonale e un moto dallo stato caldo allo stato freddo, con caduta del desiderio, scissione dei flussi della bile nera, radio accesa sul quasi dell'Inter da un foro domenica nella tratta che induce il tunisino muto a lasciare un foglietto che spiega la sua situazione sui sedili di tutti senza ottenere o senza avere che mutismo a specchio. All'esterno la pianura verso l'Iseo dà il piccolo aeroporto toroidale per eredi sevizianti, una casotta rossa allungata, cascine mono pestate in due piani, uno stabilimento a pile, altre stazioni beta. Il grasso accumulato sui polpastrelli, la mancanza di un vero motivo, il fatto di aver fatto alcune cose che si spingono a vicenda, sono accatastate alle spalle, e quanto più la catasta cresce, tanto più rotola davanti una catasta prossima, o che si approssima, che si fa visibile, vedutina, di altre cose ancora, non diversamente insignificanti, porcheriole, che però stanno in un terreno non visto, e allora hanno il loro lasciapassare per venire incontro, accadono, anche se il loro accadere, diciamo, l'accadere di tutte le cose addirittura, è per sua natura un passaggio di anello, pare, una strettoia nei due tempi soliti, niente di che, certo se non lascia una scia di sangue. Lasciare una scia di sangue del resto è attributo di una percentuale di cose altissime, cose che capitano. Prede padane, la seconda vettura è piena di donne, tutte armate, sono dei soldati, quelli di prima, schiamazzano, si attraversa un campo di frecce, delle pozzanghere in terra, degli scivoli razionalisti per bambini quadrati, una casa chiusa dalla finanza per errori di calcolo, una sutura tra quello che è stato e quello che non ha verbo, senza contare il nome del resto, e per fortuna sui nomi non si fa mai conto, quelli sono i numeri, è noto anche per via dei telefoni che ormai ognuno ha, ognuno è, e via di questo passo o di quello, è lo stesso, migliorando. Grazie a Marco Michele per le letture. Adesso passerei a una fase, diciamo, un po' più tecnica sulla traduzione. Il lavoro di traduzione di Michele Zaffarano, appunto, è legato, diciamo, a due, diciamo, soprattutto a due progetti editoriali. Il primo è quello di Arcipelago, che ha già ricordato Marco, che va dal 2005 al 2015, e quello attuale, diciamo, di Antiche Edizioni, che va avanti dal 2018, che è ancora in corso. E per Arcipelago, appunto, dirigeva la collana Chatbooks, e adesso invece tre collane, appunto, per Antiche Edizioni, Chatbooks, Ultra Chatbooks e appunto Gli Alberi. E Gli Alberi è una collana rispetto alle altre due che si occupa di saggi, ovviamente, quindi di materiale critico sostanzialmente, sempre sulle scritture di ricerca, mentre Chatbooks e Ultra Chatbooks, diciamo, legato, insomma, alle scritture creative di ricerca. È curioso il fatto che ognuna di queste collane presenti al suo interno sia autori, appunto, nostrani che autori di altra provenienza, tradotti, e questo, diciamo, dice molto anche sul valore, appunto, sulla funzione della traduzione, che diventa un vero e proprio strumento militante, sostanzialmente, cioè di importazione di testi che altrimenti resterebbero confinati nel loro territorio di appartenenza. Un'altra cosa, secondo me, rilevante di questo progetto editoriale è che c'è una sezione dedicata, appunto, alle scritture saggistiche e una invece dedicata alle scritture creative. Questo mi sembra risponda un po' a quel concetto blesiano della creazione critica, sostanzialmente, no? Cioè il fatto che l'atto creativo deve essere sempre supportato, insomma, da una prospettiva, appunto, teorica ben definita, che non deve essere prescrittiva ma che comunque deve essere fondata, quantomeno. E ecco, io volevo chiederti sostanzialmente come sei venuto in contatto con il panorama francese e quali sono le esigenze che poi ti hanno spinto a operare attraverso la traduzione per importare questi testi in Italia, poi a livello, diciamo, anche biografico. La biografia c'entra tantissimo perché, come dici tu, è un'operazione militante gratuita, come si diceva prima. E, allora, mi ricollego subito a quello che diceva Marco, che è fondamentalmente vero, cioè la sommersione degli anni 90. Gli anni 90 sono gli anni in cui, cioè, ho avuto 20 anni io, per cui è quel periodo. All'inizio degli anni 90 scrivevo, però senza troppa convinzione. Poi andando avanti, studiando, vedendo, mi sono sempre convinto, cioè, mi sono convinto sempre di più che mi interessava tutto quanto, e sempre di più mi sono convinto che intorno, insomma, non c'era proprio un humus molto fertile, nonostante stessero succedendo anche delle cose relativamente interessanti. La cosa, quindi, anche allora, io ho passato tutti gli anni 90 praticamente in sinergia con Gerardo Bortolotti, e quindi la sommersione l'abbiamo fatta fortunatamente assieme, cioè io scrivevo per lui, lui scriveva per me, ci si telefonava, si facevano ore di telefonate col figlio, ancora c'era, e quindi è nata un po', cioè funzionava in questa maniera, eravamo soli, ci sentivamo soli, cioè funzionava così. Andava un pochissimo anche noi alle presentazioni, ai convegni, alle... seguivamo un po' relativamente quello che succedeva nel panorama, nel dibattito, però senza troppo. Però ci interessava tantissimo la letteratura, fino ad arrivare a un certo punto in cui non sapevamo neanche bene troppo che ambito stessimo attraversando, cioè che cosa stessimo scrivendo. Io, una volta passata la fase sanguinettiana, che era doverosa per qualsiasi autore di ricerca, a quanto pare anche adesso è tornata questa cosa, insieme al neormetismo, va detto, però ci siamo un po' squagliati, cioè non capivamo benissimo, solo che diversamente da Marco e dagli altri gruppi sparsi, cioè io ho avuto questo culo sostanzialmente, che sono partito per Parigi nel 97, e arrivo in libreria nel 97 a Parigi e miracolosamente trovo un sacco di quelle cose che mi sarebbe piaciuto fare. Era il periodo, sono arrivato a Parigi nel periodo in cui, nel momento esatto in cui stavano esplodendo queste nuove scritture post-pongiane, eccetera, eccetera. Allora, la collana mia era tutto legato a case editrici come Aldant, BOL all'inizio abbastanza, soprattutto dopo, riviste come Gnoc, che nasce nel 90, però nel 95-96 comincia ad allargarsi. I primi libri di, allora, Nathalie, il primo libro di Nathalie Cantan è del 96-97, mi pare. Idem, quelli di Tarkos, il 96. Insomma, autori che sono molto, che adesso sono considerati quasi dei classici, però in quel momento stavano uscendo fuori in libreria e creavano anche un certo scompiglio pure da loro. E niente, cioè, la mia totale sorpresa di fronte a queste produzioni, per cui altre telefonate con Gerardo, e cioè abbiamo cominciato a riflettere su questa cosa che stava succedendo. Poi Gerardo, che aveva più una conoscenza dell'inglese, ha cominciato a chiedersi, ah, ma allora forse negli Stati Uniti, eccetera, eccetera. E quindi ci siamo trovati in questa situazione per cui sapevamo che fuori dall'Italia stavano facendo le cose che ci assomigliavano parecchio, però in Italia non si vedevano. Quindi a quel punto, come dire, la traduzione diventava una necessità, certo. Ma prima ancora per farla conoscere agli altri, per noi, esatto. Per noi, per ragionare su quelle cose e vedere come ci si potesse comportare, che cosa si potesse organizzare. Tant'è vero che io avevo anche praticamente smesso di scrivere e ricomincio a scrivere in francese, perché oltretutto tutti autori che poi ho conosciuto personalmente, ma in quel lasso tra il 97 il 2001 era soltanto gli autori dei libri, e li seguivo proprio completamente. Allora, a partire da questa cosa, quando sono tornato, ho iniziato il dottorato, strane vicende, eccetera, eccetera. Poi quando sei tornato dalla Francia? Allora, definitivamente sono tornato nel 2003. Nel 2003 praticamente la grossa esplosione della Renaissance francese era già passata, si erano già assestati come autori, era già partito POL, cioè, allora all'inizio erano case editrici medio piccole, poi POL, che era una casa editrice relativamente importante, ha cominciato ad assorbire questa grossa ondata, un sacco di attori. Natalia, Natalia Cantan ha pubblicato, cioè continua a pubblicare tuttora, cioè ha l'attivo con POL una ventina di libri. Tarkos anche ha pubblicato un sacco di libri, anche adesso Tarkos purtroppo è morto nel 2004, però continuano a uscire libri postumi con delle inediti, tutto quello che ha lasciato. Vabbè, l'universo Tarkos è un universo particolare. Altra gente come Cadio, per esempio, Alferini, Pippet, Spitalier era più flammarion. Comunque era nel 2003 quando me ne sono tornato in Italia, in realtà la situazione era molto più definita per i francesi, ma anche per me, per Gerardo Bortolotti. E poi è successo che io mi sono trasferito a Roma, ho conosciuto Marco e c'è stata questa specie di proprio scintilla, cioè, ah ma... Gianni Pinotto, no? Quello... Sei tu, sì. Ma è andata più o meno così, no? Cioè, sì. Non ci posso credere, anche con Alessandro Broggi stessa cosa. Beh, con Broggi ancora che per... poi vi conoscevate anche prima, poi lui si è risommerso per tutta un'altra vicenda e ci siamo ritrovati, cioè in realtà lui perché Broggi vive a Varese, Milano, quindi ha fatto l'università paradossalmente a Gherardo, però cioè è ritornato tramite Marco Giovenale. Vabbè, queste sono le cose, ma è giusto per spiegare che c'erano tante monadi che a un certo punto si sono ritrovate ed è scattata la cosa, ma per noi era anche una cosa relativamente normale, cioè non fare, cioè vabbè, c'era internet che nasceva, quindi metti sul sito, facciamo la cosa, era una questione anche di sopravvivenza, perché non avevamo troppo ossigeno cioè oddio, qualcosa c'era, non è che non c'era niente, però ci siamo messi a lavorare per creare un parterre di opzioni, diciamo. E in Italia c'erano comunque dei punti di riferimento, no? Insomma, avete parlato spesso di Corrado Costa, di Bordini. Allora, per quello che mi riguarda, sì, allora, per quello che mi riguarda è ovviamente dalla parte italiana è una parte del gruppo 63, in particolare Costa che ci partecipa eccetera eccetera, e all'interno proprio del gruppo 93 era, per quello che mi riguarda, ovviamente Sanguinetti, ma soprattutto Porta fino al 76, una cosa così. Quello era il tipo di... Per Gherardo per esempio è stata una cosa diversa, lui era invece lui si è specializzato subito nella prosa, tra virgolette, e il suo modello di riferimento sono le città invisibili e soprattutto Paloma, nel tempo erano pazzi di Paloma, era proprio... poi c'è tutta la questione anche dei Terecchiani, gli Ulipiani, che ci interessava perché dal punto di vista del... innanzitutto faceva scendere di una tacca, se non di più, tutta la questione della poeticità, della poesia come espressione del sé, che a noi non interessava, perché non interessava molto di più la disposalità della scrittura, cioè il fatto che la scrittura potesse fungere da connettore per i neuroni del lettore, cioè di funzionare un po' in quel senso, proprio come in arte, nell'arte contemporanea, parte del lavoro. Io, per me l'influenza per esempio di Joseph Kossuth in quello che ho fatto è stata quasi più importante di quella di Sanguinetti a un certo punto. E, mi sa che mi sono perso la domanda, però... No, la domanda comunque ha avuto la sua risposta, insomma, quindi ti ringrazio per questo. No, e poi insomma vorrei parlare di un libro, visto che così almeno iniziamo un po' pure a tirare fuori le armi. Questo libro è l'Osservazione di Natalie Cantan, che in realtà appunto il titolo originale è Remarque, che uscito nel 97, se non sbaglio. E è il primo, il primo libro di Natalie Cantan, che è una sorta di raccolta di prose brevissime, asciuttissime, veramente fino all'osso. Appunto la traduzione italiana, diciamo, queste frasi eccedono appunto raramente, diciamo, la struttura soggetto verbo oggetto, poco altro, insomma, quindi sono veramente delle prose, insomma, super, super asciutte, che riguardano diciamo i micro eventi della quotidianità. Ed è assurdo, io quando ho letto, insomma, il libro per la prima volta è scioccante appunto restare scioccati da eventi, da vedere appunto scritti, trovare scritti eventi che riguardano la collettività così in modo insomma diffuso, perché insomma sono prose che riguardano la quotidianità veramente più comune, più collettiva. E diviso in tre parti, però la cosa che mi incuriosisce appunto di questo libro è l'impostazione tipografica che ha utilizzato per la traduzione, l'impostazione tipografica definita dead bash, cioè appunto rovesciata diciamo a 180 gradi, cioè il testo originale rispetto al testo tradotto sta in una posizione appunto rovesciata di 180 gradi, quindi questo è originale e qui c'è il testo tradotto e a metà c'è la divisione sostanzialmente. Intanto ti chiederei perché questa scelta e non la scelta più tradizionale del testo a fronte e poi magari ti faccio un'altra domanda, sì te la faccio dopo intanto. Prima di questo volevo fare una postilla sul primo libro di Natalì, mi riconnetto a quello che si diceva prima. La cosa più strana di questo primo libro di Natalì, che è uscito in una collana, quella di Scienza, in una casa editrice che aveva una collana di poesia che era proprio lirica, lirica, lirica. Certo. Quindi il primo libro di Natalì viene scambiato per essere un libro di lirica, lirica sulla quotidianità, il valore, eccetera, di queste cose qua. Lei non l'ha mai smentito ovviamente perché era il primo libro, poi è passata subito per Well, però era simpatico come... Cioè, forse non anche da loro all'interno, magari non voluto. No, da quello che mi ha raccontato. Ok, allora vediamo la confessione. Era proprio. Ci abbiamo provato anche noi, ma non c'è mai riuscito. Con la bianca in audio. il Ted Bash. Allora, vabbè, qui sono delle idiosincrasie mie di traduttori, non sopporto, ma non, cioè, non perché non sopporto di essere contestato, ma non sopporto quando il lettore fa le pulce al traduttore, cioè quando legge col testo a fronte e fa lo spulcio, però guarda qui, non è per il fatto in sé che viene a fare le pulci, è perché interrompe tutto il lavoro di organizzazione dell'omogeneità del testo, cioè lo interrompe continuamente e non si percepisce, cioè io posso scegliere di tradurre, mal tradurre certe cose per delle evidenti intenzionalità estetiche, perché voglio puntare a questo o a quell'altro effetto, e con questa cosa qua non, cioè, viene completamente vanificato, siccome mi è successo, allora ho cominciato a riflettere questa cosa. E allora mi sono inventato, in realtà non è che l'ho inventato ovviamente io, questo meccanismo per cui cioè, due libri, poi anche il lettore è contento che compra due libri con uno. Esatto, della stessa cosa di Brother Proprio, no? Due in uno. Esatto. E, vabbè, leggerei allora qualche passaggio dalla versione allora, tradotta. E... Allora, è diviso in tre parti, vabbè, sì. Leggo un po' a caso, perché tanto... che venga di faccia o di spalle, quando il vento soffia forte io mi piego in avanti, quando cammino c'è sempre uno dei miei piedi che mi sparisce dietro, secondo il punto del corpo che mi gratto produco un rumore diverso, più la poltrona su cui sono seduta è bassa e imbottita, più le mie ginocchia stanno vicino alla faccia. Anche se la mia stanza è una camera completamente buia, per dormire chiudo gli occhi. Quando al buio mi sono preparata a fare un gradino che invece non c'era, ho la stessa sensazione come se avessi mancato un gradino. Anche quando mi guardo dietro, continuo a vedere quello che ho davanti agli occhi. Se mi pizzico la punta del naso con l'indice e con il pollice, dopo un po' spalanco la bocca. Quando bevo il mio labbro inferiore rimane asciutto. Mettendomi al sole posso approssimativamente sapere che ore sono grazie alla posizione della mia ombra. Al momento di ingoiare una compressa, bevendo un sorso d'acqua, butto la testa indietro con energia. Quando soffio sulle candeline di una torta di compleanno mi piace gonfiare di più le guance. Quando mordo una fetta di melone questa mi nasconde la bocca. Agitando la gamba con vigore scaccio una mosca che ci si era appoggiata. dopo aver fatto la doccia, posso scrivere il mio nome sullo specchio dell'armadietto dei medicinali. Se mi stropiccio gli occhi in pieno giorno, si può pensare che mi stia svegliando. Quando ho una pila di libri sulle braccia, scalo le scale senza guardare i gradini. Più l'unghia che sto tagliando è dura, più salta lontano all'ultimo colpo di forbice. Sfiorandomi le labbra con la punta delle dita, simulo un bacio. Quando penso intensamente a qualcosa, non vedo quello che sto guardando. Quando faccio un bagno, le mie braccia tendono a risalire in superficie. Vabbè, grazie. Insomma, ho ascoltato, diciamo, quello che insomma, un effetto che viene definito, insomma, l'effetto di opacità, ecco, che però deriva da un eccesso di trasparenza, appunto, di chiarezza, no? E questo è, insomma, un'operazione secondo me molto, molto interessante. E parlavo dell'impostazione tipografica, Ted Bash, anche in relazione, appunto, a un tuo libro invece in lingua, appunto, in italiano, che è italiano, in italiano molto zaffaranesco, e uscito per il Verri nel 2017, se non sbaglio, e ripubblicato adesso da Reclip, appunto, nel 2024, quindi quest'anno. E è una sorta di, non saprei come definirlo, un manuale, appunto, in versi, diciamo, per sull'autoefficacia, appunto, per un capitalista in potenza, potremmo dire. E qui, insomma, ritorna l'idea del debraiaggio, cioè ovviamente le intenzioni dell'autore non sono, appunto, quelle che ritroviamo nel testo. E però è curioso il fatto che il testo sia organizzato come, appunto, il testo due copertine tradotto. Qui c'è il vantaggio che cioè, sono completamente uguali, cioè, quindi non si deve capire, credo, insomma, quale sia la parte corretta, diciamo, quella mi era venuto in mente di lavorare su questo tipo, sull'impostazione di questa Ted Bash, perché avevo creato un testo e una variazione del testo, e dello stesso testo, ovviamente, e in pratica questo sistema mi permetteva di impedire al lettore di capire quale fosse il punto di partenza, o comunque il primo punto di cui l'altra parte era il secondo, insomma. Quindi è un po' per mascherare la cronologia del, e anche, cioè, anche una gerarchia, diciamo, dal punto di vista estetico. Però volevo chiederti se diciamo, questo lavoro di traduzione ha influito sulla costruzione, perché in questo caso per la traduzione diventerebbe uno strumento pragmatico dell'investimento del dispositivo, visto che il dispositivo, appunto, ha una sua significazione anche sull'impostazione tipografica. Mi piacerebbe dire di no, però sì, in realtà è una cosa che non mi ricordo quando mi è capitato un libro Ted Bash la prima volta in mano, però il concetto in sé è molto, molto, molto interessante, ma l'ho colpito subito appena. Infatti il tutto Benway l'abbiamo organizzato con questa impostazione, sì. Il testo l'originale dall'altra parte, quando ci hanno concesso, perché per esempio in Holocaust non ci hanno fatto mettere l'inglese, infatti sarebbe diventato un libro bellissimo. Va bene, allora, insomma, ti ringrazio, quindi la risposta è affermativa, diciamo, questo sì, è certo, okay. No, allora leggiamo magari qualche passo. Leggo, giusto da PowerPoint, da una delle due parti, non sì, dire quale. Esatto. A volte, quando lui, chi mi sta parlando, cerca che cambio l'opinione di me, quando lui, chi mi sta parlando, cerca che manipola di me, io faccio il ricorso alle tecniche efficaci per la difesa nella comunicazione. La tecnica che faccio l'uso per la difesa nella comunicazione consiste che ripeto più volte il mio punto di vista senza che cambio le parole, senza che cambio il tono delle parole. Tale tecnica per la difesa nella comunicazione consiste che scelgo che faccio l'uso nella maniera ossessiva della frase breve, delle parole di me, senza tenere il conto delle parole che dice lui chi mi sta parlando. Tale tecnica per la difesa nella comunicazione consiste che pronuncio ogni volta è possibile, nella maniera ossessiva, la frase breve delle parole di me che ho scelto rivolgendo me a lui chi mi sta parlando. Quando uso tale tecnica per la difesa, devo solo che mi preoccupo che faccio l'uso nella maniera corretta di tale tecnica. Devo solo che sto attento, che controllo le mie emozioni. Quando uso tale tecnica, che è la tecnica efficace, che faccio l'uso per la difesa nella comunicazione, devo solo che mi preoccupo che non coinvolge di me, che non cattura di me nella rete delle parole dell'altrui da me. Mi esercito sempre che faccio l'uso di tale tecnica efficace per la difesa nella comunicazione, mi esercito sempre che resisto, mi esercito sempre che dico la frase delle parole che ho scelto nella maniera della calma, che dico la frase delle parole di me che ho scelto nella maniera della rilassatezza. Il linguaggio del mio corpo non tradisce l'emozione della negatività. Io non do la visione della collera, non do la visione dell'indignazione, non incrocio lo sguardo a lui chi mi sta parlando, non guardo lo sguardo a lui chi mi sta parlando, non sono nell'incoraggiare il dialogo, non sono nella paura del silenzio. Vabbè, 6:30. Vabbè, allora, mi dispiace. Vabbè. Vabbè, allora chiudiamo così e, insomma, con questa lettura e vi ringrazio dell'attenzione. Forse se qualcuno ha una domanda, se possiamo, cioè, non c'è chiaia per dirci. Io ho una domanda per quanto riguarda Remarque di Natalie Pantano. È stato pubblicato appunto con questa modalità solamente in Italia? O appunto non è possibile pubblicarlo anche in Francia? Perché la prima edizione è Chanel Duse. Allora, si dà tutta un'interpretazione anche nella quarta di copertina di ciò che appunto lei scrive in Remarque. Questa appunto presenta una non presentazione, ecco. Anche il fatto di giocare con il libro, l'espediente, esatto. Ho capito, di pubblicarlo in francese con la traduzione italiana, esatto. Che magari allora, cioè, non... perché si gioca con l'oggetto proprio, sì, lei sì, tratta sì, di sì. Questi argomenti, Beh, effettivamente non, personalmente non ci avevo mai pensato, ma il problema di quel libro lì è che Shen non l'ha neanche più ristampato, perché, cioè, poi Natalie Cantano ha fatto tutt'altra strada, quindi si sono un po' accorti che magari c'era qualche cosa di... bisognerebbe ristamparlo forse a qualche altra parte, ma no, con la traduzione italiana è un po' compito, i francesi sono un po' più... diciamo sciovinisti, non sono molto... No, per rimarcare anche questo collegamento tra Francia e Italia, proprio anche con questa scrittrice, magari... Sì, sì, sì, no, è vero. Allora, loro sono molto importanti per noi, eccetera, eccetera, però anche noi abbiamo contribuito in qualche maniera... allora, io sono dentro nella redazione della rivista Gnoc, che è diretta da Glaise, dove c'è anche Natalie Cantan. Abbiamo fatto delle cose, ho fatto un numero speciale sulla poesia italiana. C'è un po' anche lì, nel senso che il massimo che riescono a conoscere della poesia ultra contemporanea, un po' come succede anche da noi ultimamente, è, che ne so, o Sanguinetti, o adesso hanno tirato fuori anche Pagliarani, hanno tirato fuori la ragazza Carla. Io avevo proposto di tradurre la lezione di fisica, ma mi hanno detto no, la ragazza Carla. Non so perché traduci la lezione di fisica. No, vabbè, mi c'ero anche messo. No, però vabbè, insomma, è un po' più complicato. Siamo tendenzialmente più interessati noi a loro che loro a noi, anche se, vabbè, nel piccolo gruppo della ricerca questo non è vero, in senso lato, diciamo. Però calcoliamo che in Italia abbiamo un sacco di problemi proprio con i francesi, cioè un autore che è morto nell'88 e dopo 3 anni aveva già 2 volumi della Pléiade, cioè come i meridiani, ma di più, è Francis Ponge, che è un autore ultra conosciuto in Francia, e da noi c'è l'unico libro tradotto, è il primo libro del 42, Il partito preso delle cose, che Ponge ha passato tutta la vita a cercare di lapidare in qualche maniera. Però anche questo è un sintomo di come in Italia la ricerca venga recepita, il pragmatismo, la pragmatica, insomma, la proceduralità, la disposalità. Vabbè, sono un po' esondato rispetto alla... ne ho approfittato, scusa. Grazie. Ci sono altre domande? Se non ce ne sono altre, io ne avrei una. Sul fatto appunto di fare Ted Besh, oltre all'idiosincrasia di non voler, ma c'è anche un'idea di non gerarchia del testo, cioè del testo tradotto rispetto, cioè che hanno la stessa... Cioè io l'ho sfruttata nel mio libro, l'ho sfruttata esattamente in quel senso lì, però effettivamente anche, cioè, ho il libro in mano e non capisco qual è, se è un libro italiano o se è un libro francese, cioè hanno la stessa dignità, livello... sì, assolutamente. Ma è anche un altro modo per... Oltre al fatto che non c'è quarta di copertina, sì, no, anche questo esatto, è interessante. Ma è anche un modo per trasformare proprio anche visivamente il libro in un vero e proprio oggetto, cioè ricostruire una consapevolezza dell'oggetto libro in quanto tale. Siamo troppo abituati alla copertina, quarta di copertina, invece così cioè, siamo costretti a proprio interagire con il libro fisico, fisica, in maniera Domenica, fisica. Domenica, alla fiera hanno letto un testo di Michela Murgia che immaginava una libreria con tutti i libri bianchi, ecco. Senza nome d'autore, senza titolo, senza quarta di copertina, senza illustrazione, testo. Solo il testo. Ah, solo il testo. Solo il testo. Alle volte è meglio il contrario, cioè solo l'autore, solo la copertina, niente. Una domanda anch'io, come si fa a tradurre delle scritture non assertive? Per l'appunto, anche presupponendo il tipo di lettore o che lettore, come lavori sulla traduzione di scritture non assertive? Questo però è un discorso che... cioè, adesso lo facciamo su questo tipo di traduzione, ma in realtà cioè, vale, secondo me vale per tutto, cioè ogni traduzione è un'interpretazione di base, quindi per tradurre un'operazione di disposalità scritturale, diciamo così, l'unica maniera è impossessarsene e entrare nella logica di riscriverlo in pratica, quindi di assumere, cioè faccio finta di essere Nathalie Cantin che in Italia sta per scrivere quello che noi abbiamo capito avrebbe scritto, eccetera, eccetera. È un po' contorta come cosa, però è l'unico sistema che secondo me riesce a rendere, non è l'unica cosa importante, ma è forse una delle cose più importanti di un testo tradotto, cioè l'impatto che l'opera provoca in chi legge e all'interno del contesto anche storico, insomma. Questa cosa non ho risposto, però sì. Non ci sono altre domande. Ma io mi rilascio con una piccola domanda, sentendo, ma quindi quanto è ricontestualizzato il testo rispetto ad una traduzione canonica di prosa o poesia, perché tu prima dicevi tenere presente a te il contesto, sì, ma appunto quanto rispetto ad una normale traduzione? Allora, questa è una domanda che secondo me è una falsa domanda, perché in realtà bisognerebbe stabilire al contrario quanto la traduzione corretta non è a sua volta una riproposizione del contesto. Le traduzioni non sono l'opera, ma ripropongono l'opera. Quindi una traduzione ha una velocità di decadimento diversa rispetto all'opera. E come tale, io posso leggere, per esempio, leggo le traduzioni di Ceronetti di Marziale, e secondo me sono delle traduzioni eccezionali, ma che toccano quello che c'è in Marziale e che me lo rendono toccante. Ho fatto l'esempio di Marziale che stanno passando, sì, cioè, 1000 anni, però nel piccolo queste cose succedono anche per le traduzioni di anche di Ponce, mi è capitato. Ci sono molte cose che vanno attualizzate per forza di cose, altre un po' meno, però personalmente non credo a una traduzione che sia sganciata in assoluto da un rapporto con il contesto. Con il contesto di traduzione. Con il contesto, cioè, sì. Cioè, per esempio, io, diciamo. Esatto. Cioè, io non riesco a leggere Kafka in italiano, purtroppo non so il tedesco, quindi non riesco a leggere Kafka, perché le traduzioni di Poker mi fanno veramente male, diciamo. E questo è un problema, perché... Sì. Però poi... No, prego. No, lì c'è il discorso sulla attualizzazione delle traduzioni, no? Sulla ritraduzione, no? Cioè è un mare magno, sì, ma nel senso che noi possiamo, che cosa è più importante, no? Molto banalmente, leggere con avere lo stesso impatto, no? Che aveva chi ha letto il testo, no? Non so, Madame Bovary, cioè. Oppure invece conservare l'italiano, che poi il discorso in realtà è anche che l'italiano credo sia come dire, il francese e l'inglese sono cambiati, sì, ma sono cambiati molto meno, no? Rispetto all'italiano degli anni 40, 50, il testo sembra molto più vecchio, no? Sì, è invecchiato tutto più. Allora, poi è ovvio che è un tipo di operazione molto delicata, perché riattualizzazione non vuol dire rientrare alla Busi e rifare, cioè se sto parlando di una cosa devo trovare il modo di parlare di quella cosa lì, però costruzioni sintattiche, a volte cerco di ragionare in termini di impatto della lingua su me come lettore, sì. Quindi è da quello che cerco di ripartire, cioè è la cosa che cerco di ricostruire, perché vedo delle traduzioni in giro che in realtà sono, diciamo, passatiste e secondo me fanno un servizio peggiore rispetto a quello che farebbe una cosa un attimo più equilibrata, diciamo. Però ogni caso ovviamente andrebbe valutato nella sua specificità, cioè per esempio tradurre un autore contemporaneo una cosa, tradurre Flaubert un'altra, cioè quello è ovvio. Però per esempio io mi è capitato, mi hanno chiesto di tradurre Madame Bovary, cioè, non so quando finirà, però posso giocare su questa cosa, perché di traduzioni di Madame Bovary ce ne sono all'infinito, quindi io sto eliminando il passato remoto completamente. Si è rivolta nella tomba, però insomma. Però cioè. Non sa l'italiano. Sono giochi, cioè sono casi che vanno sempre presi con le pinze, singolarmente valutati in quella. Sì. Cioè non voleva essere un discorso, allora rifacciamo, riscriviamo. Uh-huh. Cioè, quando penso a questa cosa, comunque penso a quella, alla bellissima introduzione di. Bellissima in senso ultra ironico. Introduzione di Alessandro Baricco quando ha rifatto l'Iliade, l'Iliade. Che nell'introduzione dice: abbiamo fatto una traduzione in cui abbiamo reso prosaico, abbiamo eliminato gli dei, eccetera, eccetera, ed è risultato un Omero molto più laico. Questo è l'esatto opposto da cui bisogna rifuggire nella stessa maniera, cioè c'è sempre una via di mezzo, ovvio, certo. Però c'è, bisogna sempre spostarlo un pochettino. Ci sono altre domande? Io ne ho una sulla prospettiva per i nostri autori e traduttori, per Marco e per Michele. A che cosa state lavorando? Cosa volete tradurre prossimamente? Io sul, diciamo, le mie esperienze con le case editrici non sono state particolarmente felici dall'inglese. Io ho tradotto principalmente saggistica e quindi per il momento sono fermo con le traduzioni. Se lo faccio di tanto in tanto con autori appunto contemporanei, contemporaneissimi e nell'assoluta, più assoluta gratuità. L'ultima cosa che credo di aver tradotto è un testo di... adesso ho un lapsus su Gamma. mi arriverà con un contesto proprio di questi ultimi mesi e di un'autrice statunitense. E Alison Grimaldi Donahue, ecco, adesso ho avuto, si è acceso il neurone, l'ultimo. Per quanto riguarda le testualità, mi muovo sempre e comunque soltanto ormai sulla prosa, come Gherardo fece però più di 20 e 25 forse anni fa, e questo è quello. Però prima di passare la parola a Michele, volevo fare una postilla editoriale a proposito di quello che dicevate prima, dicevamo forse un po' tutti quanti del passaggio degli anni 90. Questo libro qui è nuovissimo. Sapete che la prima edizione è del 61, è d'accordo, ma l'edizione Einaudi è del 65, la prima edizione Einaudi. E poi viene ristampato varie volte. L'ultima volta che viene ristampato, nel secolo scorso, è del 79. Quindi prima di questa edizione, che è del 2003, passano 25 anni. Cioè c'è stato un quarto di secolo in cui chi voleva leggere un certo tipo di sperimentazione andava in biblioteca. E questo spiega un po' qualcosa di quel, no? Di quel scavare sotto gli anni 90, ma anche gli 80, se per questo. E sono passati altri 20 dopo. Sì, poi adesso... Perché ho chiesto Bersani, adesso è 23. Ecco. Bene, se non ci sono altre domande, io vi ringrazio. Michele, stai traducendo. Cosa stai traducendo? Allora, cosa stai scrivendo? Madame Bovary, però non so quando inizieranno a pagarmela, più che altro. Io sto cercando di uscire dal cono d'ombra della gratuità, in realtà. E sto cercando di far pubblicare, ho già tradotto e mi è venuto anche bene, devo essere contento, per una volta il sapone di Ponge non lo vuole nessuno. Veramente. Dai Naudi, Nave di Teseo, Quodlibet, adesso il lettore al saggiatore, chissà, forse. L'Orma? L'Orma non gli scrivo io. Lo diciamo che vari altri editori, tra cui molti alcuni altri di questi, editori, tra cui alcuni di questi nominati, hanno rifiutato dei saggi, i saggi sull'arte di Beckett. Ah, sì, quello. Che praticamente si offrivano corredati da quella gratuita, cioè, quella gratuita, neanche gratis, gratis. Beckett, vabbè, basta. Viva l'Italia. Ok, ci sono altre domande, allora chiudiamo qui. Vi ringraziamo. Grazie a voi. Grazie a voi.